Va bene, ci siamo tutte. Allora, ciao a tutte, è un piacere essere qui e siamo qui per la presentazione dell'ultimo libro di Daniela che si chiama, un po' l'abbiamo, in molte l'abbiamo letto, e si chiama Liberiamoci, come liberarsi della bestia, ovvero di una cultura del cazzo. Daniela Pellegrini è una femminista di Milano, ha fondato nel 65 il primo gruppo politico di donne, si chiamava Da Capo, Donne contro l'autoritarismo patriarcale, e poi che viene poi modificato in DEMAU, Demistificazione dell'autoritarismo patriarcale. Posso fare un inciso? Sì. Abbiamo tolto il contro perché non era politicamente femminile. Ah, certo, per affermarsi non rispetto a qualcos'altro, ma per se stesse. Ecco. Mi sembra un buon passaggio. E poi è stata anche animatrice di un circolo culturale e politico delle donne che si chiama CICIP, con Nadia Riva ha anche pubblicato per un periodo dall'87 al 94 una rivista che si chiama Fluttuario. Fluttuaria. Scusami. Nel 2012 aveva scritto un altro libro che è in parte una sua biografia, ma è molto densa, come diceva prima, è quasi un'enciclopedia per quanti concetti e nodi sono affrontati, che si chiamava Una donna di troppo, storia di una vita politica singolare. E poi da un po' di tempo ha ricominciato a Milano a praticare l'autocoscienza insieme ad altre donne e compagne anche più giovani, e ha ricominciato appunto, e abbiamo anche un contributo su questo proprio delle compagne che hanno incominciato a fare questo documentario, sono delle interviste su che cos'è l'autocoscienza per loro, come la praticano, eccetera, che all'inizio sono soltanto 2 minuti, ma che poi si andrà costruendo, quindi quando poi lo finiranno spero che ce lo farete avere. Speriamo di averlo anche noi, perché i tempi e i soldi, ma... Esatto. E allora io volevo dire 2 parole su, diciamo, i motivi che hanno portato Daniela a scrivere questo libro, perché in un'intervista che abbiamo fatto un po' di tempo fa alla radio sono usciti fuori e li ho trovati molto, diciamo, importanti, perché appunto descrivi un po' un'urgenza, l'urgenza di riprendere parola, di fare in un momento così complicato di nuovo chiarezza e di dire di nuovo le cose come stanno, perché effettivamente questi sono tempi in cui c'è una grossa confusione, il femminismo è spezzato in 1000 rivoli, tanto che adesso si parla di femminismi e non di femminismo. Quindi oltre a questa frammentazione siamo all'interno poi di un panorama che è quello ormai globalizzato e neoliberista, in cui alcune sostengono anche che il patriarcato sia stato superato, che forse il capitalismo abbia, diciamo, sia riuscito a superare il patriarcato e quindi anche la divisione dei ruoli e questo duale tra maschile e femminile, e invece in realtà sembra che il neoliberismo, più che essersi liberato del patriarcato, in realtà mistifica questa differenza, questa dualità, e in realtà la riafferma, perché effettivamente anche noi lo diciamo spesso, insomma, non si capisce come mai in un periodo di ristrutturazioni così importanti dei rapporti di forza, ai danni chiaramente, cioè di tutte le classi subalterne, non si capisce perché questo destino non debba toccare anche, diciamo, ai ruoli di genere, no? E quindi effettivamente sì, una riaffermazione della cultura patriarcale si sente. E quindi questo viene fuori, insomma, da tutte queste urgenze, e ci invita un po', almeno a me questo libro ha un po' invitato a riflettere di nuovo su che cos'è questa differenza di genere, intendendo questa differenza, una cosa che mi è piaciuta molto che hai detto l'altra volta in radio, intendendo la differenza non come qualcosa di dato, ma come un processo, cioè il processo del differire, in cui quindi si costruisce questa alterità che però è anche una distanza, chiaramente, cioè si costruisce questa distanza in cui poi noi donne siamo sempre quelle che vengono messe in questione, cioè noi siamo sempre il due di questo rapporto tra maschile e femminile, mentre invece il maschile è quello che dà valore a tutto il mondo, insomma, che codifica i valori all'interno di questa società, e quindi poi la donna si ritrova sempre a mettere in questione se stessa, è questo due, diciamo. E infatti utilizzi per esempio una cosa che è piaciuta a molte, e questa, dici che noi tutte siamo un po' soggette alla sindrome di Stoccolma, che alla fine in questo rapporto di dominio che si instaura col maschile, noi ci aderiamo poi a questo gioco e in questo rapporto tra carnefice e vittima ci innamoriamo un po' di questa dinamica, insomma, e come giustamente, insomma, con questa provocazione forse, però coglie nel segno, perché effettivamente descrive un rapporto di dipendenza che, a prescindere dalla materialità, dai fattori economici, eccetera, si radica proprio dentro di noi, cioè effettivamente noi viviamo anche una dipendenza di tipo emozionale, affettivo, relazionale, e quindi da qua l'invito al ritorno a praticare una politica delle donne, quindi anche il separatismo, anche l'autocoscienza, come presa proprio di autonomia, cioè come quel luogo, tu lo chiami questo luogo terzo, in cui cercare di costruire insieme un discorso completamente al di fuori di questa dinamica duale. E cioè sul separatismo anche, insomma, noi per esempio come coordinamento lo pratichiamo da anni, facciamo assemblee separate, ma ci relazioniamo anche con compagne che ogni tanto facciamo delle cose insieme, ma anche con compagne che non lo praticano, quindi spesso quando ci ritroviamo a discutere esce un po' sempre fuori la necessità di capire come mai il separatismo, se il separatismo ha ancora un motivo oggi di esistere e come debba essere inteso, diciamo. E effettivamente, per come lo intende Daniela, da quello che io ho percepito, il separatismo è proprio questo atto creativo, questo atto fondativo in cui finalmente possiamo stare in un luogo in cui non c'è sempre e continuamente, non siamo sempre chiamate a spiegare la nostra differenza, a riconoscersi per opposizione a qualcun altro, ma incominciamo ad indagare, a vedere la realtà e quindi a indagare anche le nostre percezioni, come le nostre relazioni, a partire da noi e da quello che noi desideriamo, senza avere continuamente attivo lo sguardo del maschile che ci dà o ci nega valore e quindi che ci... Però effettivamente il separatismo è una pratica anche difficile all'inizio, nel senso che un'esperienza che io ho fatto, la mia esperienza, diciamo, del separatismo è che non sono andata io in cerca del separatismo, è un po' lui venuto, cioè questa pratica mi si è un po' materializzata davanti a un certo punto come una necessità, no? E mi viene sempre in mente quello che diceva, lo scherzo che fa Christine Delphi dalla difficoltà all'inizio di definirsi femminista, che lei diceva: io all'inizio pensavo delle cose rispetto ai rapporti di genere, rispetto al dominio del maschile sul femminile, rispetto alla divisione sessuata dei ruoli all'interno della società, però incominciavo ogni frase dicendo: io non sono femminista, però certo questa cosa, elencava tutti i nodi poi che il femminismo affronta, no? E effettivamente questa... io l'ho ritrovata un po' nella mia esperienza quando ho cominciato a fare politica separata, perché il separatismo l'ho anche vissuto un po' come questa lacerazione, cioè a un certo punto è come se si fosse squarciato un velo e io abbia cominciato a percepire tutta una serie di dinamiche che prima non volevo vedere, che prima forse non riuscivo a guardare, perché sarebbe stato, diciamo, è una doppia separazione, cioè prima mi riconosco come classe oppressa, diciamo nella classe intesa in senso comprensivo, no? Poi all'interno di questa classe devo ulteriormente riconoscere, diciamo, un rapporto di forza che viene esercitato all'interno, e quindi io mi separo doppiamente, e all'inizio è un po', appunto, cioè come una solitudine di compiere quel passo, no? E poi invece ci si ritrova in un'assemblea superata, si sta così bene e si possono dire così tante cose senza tutti quegli stilemi che ci sono nella politica, per cui si dicono le cose ma mai con chiarezza, ma mai fino in fondo, si costruiscono sempre anche all'interno dei movimenti politici una sorta di temi tabù che non possono essere affrontati, no? Alla fine si fanno queste assemblee in cui sai perfettamente quello che ogni persona dirà, perché rispecchia, diciamo, no, quell'area politica piuttosto che quel progetto. Invece nei consessi separati io trovo sempre un'immediatezza del discorso, della parola, e quindi poi anche della pratica, e diciamo anche una velocità di andare avanti, perché dentro a questa pratica di riconoscimento poi ci si libera anche con un certo godimento, quindi a fronte di questo isolamento che all'inizio si sente, poi ti ritrovi, per questo dico è venuta da me la pratica separatista, perché poi diciamo tutti questi dubbi e tutti questi passaggi un po' dolorosi sono stati risolti proprio dalla pratica, dal fatto da ritrovarsi tutti insieme e avere così questo godimento dello stare insieme e affrontare certi nodi. E insomma, sicuramente del tuo percorso, forse le cose che a me nei vari interventi, nelle varie occasioni in cui abbiamo avuto occasione di confrontarci, mi sono rimaste molto appunto la necessità del separatismo, l'autocoscienza come questa presa di autonomia, quindi anche forse un po' di responsabilità nei confronti di se stesse, di non delegare verso qualcun altro o qualcos'altro una presa di coscienza che deve essere propria. E io ti passerei la parola perché ma dunque le cose sono tantissime che si potrebbero dire, però io posso cominciare a dire del perché ho scritto questo libro e vorrei appunto ricordarvi che uno dei titoli cosiddetti che lo mettevano diciamo alla lettura è quella, non solo quella di liberiamoci della bestia, ovvero di una cultura del cazzo, ma è tempo di essere fiere. In questo senso che io, essendo appunto una che ha vissuto il movimento iniziale, quello appunto in cui le donne affermavano in modo fortissima la propria autonomia di giudizio e di ritiro di se stesse dalla cultura in cui vivevano. Erano per cui molto fiere di essere separate, per cui non si accorgevano neanche di esserlo, perché nella separatezza voleva dire affermarsi soggettivamente come soggetto della specie umana, che aveva visto, è l'altra fase che si diceva allora, per anni, per secoli abbiamo guardato, adesso abbiamo visto. Per cui il giudizio è prendere su di sé la responsabilità non soltanto di aver visto, ma anche quello di non essere d'accordo con ciò che si era visto, le rendeva fiere. Non è un caso che all'epoca io ho vissuto un periodo di esaltazione pazzesca, nel senso che le donne a quell'epoca, e non so per quali avvenimenti storici, ma forse perché eravamo arrivati alla saturazione, si sentivano il soggetto creativo di un nuovo modo di vivere nel mondo, per tutti, e il fatto critico verso il patriarcato in qualche modo lo ritrovate in quello che descrivo nella prima parte del libro, in cui do delle descrizioni terrificanti, no? Che era la critica normale per le donne di allora, per cui era anche normale, nel senso positivo, che le donne si separassero, perché avevano come un progetto di rivoluzione, usiamo pure questa, e di modificazione, di lettura del mondo, dei rapporti, compresi quelli economici, che derivava dalla messa in discussione da ruolizzazioni, simbologie, rappresentazioni di forze, contraddizioni, eccetera, tutte impostate a questo tipo di maschile. Insisto a dire a questo tipo perché si spera possa cambiare, perché se non cambia, dal mio punto di vista, è meglio farne a meno. Però allora si pensava che c'era anche la consapevolezza che la responsabilità di, come dire, accettare questo tipo di mascolinità era anche nostra, se non avevamo come le possibilità di costruire un altro sguardo e un altro modo di praticare il mondo. Per cui questo appunto maschile o cambiava, e nel mio libro lo ridico, non saremmo noi a chiedervi di riconoscerci dandoci un dono, voto, diritti, parità, lo dico con un po' di ironia, ma saremo noi che dovremmo decidere se riconoscervi. Questo vuol dire essere fiere di essere donne, no? Allora io penso che in questo momento storico, se c'è qualcosa che non ci rende fiere, è quello di essere donne. E mi chiedo perché? Perché non ci ascoltiamo, ci diciamo e vogliamo essere fiere? Perché in qualche modo il patriarcato e l'evoluzione anche del movimento che ha creato anche delle paure, dei rischi forti per ciascuna delle donne che l'hanno anche vissuto in modo pericoloso, perché ogni rivoluzione c'ha anche i suoi morti, tra virgolette, perché il rinunciare a una vita, quella codificata, eccetera, non è per tutte, no? Se non con un movimento che ti sorregge fortissimamente. Cioè bisogna essere in tante per essere, evitare quella solitudine di cui accennava lei. Ecco, e questa si è spersa un po' nel tempo. In più il patriarcato ha lavorato sodo nel frattempo per, nella parte, diciamo, per esempio del femminismo, della richiesta continua di diritti, di parità, le quote rosa, cioè c'era sempre, come dire, una richiesta che il patriarcato piano piano, compreso il capitalismo e anche per tutti gli altri, ha messo in modo delle metodologie per inglobarti di nuovo. Allora si parlava anche nell'intervista che il pericolo più grosso in questo momento è il famoso neoliberismo, che è un modo del patriarcato di riconquistare alle proprie immagini, simbologie, metodologie attraverso la concessione di diritti, di uguaglianza, cioè di diritti di uguaglianza che ti fanno diventare simili e che un tempo avevano solo pochi, compresi i capitalisti, cioè quelli che sono ricchi nei confronti di chi sono poveri. Adesso siamo tutti, ci hanno concesso di essere tutti uguali con la famosa democrazia. Però nello stesso tempo, a parte che viene sconfermato ogni piede spinto, ciascuno pensa di essere in prima persona il capitale e il valore del poter avere ogni diritto, ogni liceità dell'agire, abusare, contrattare, aggredire, cioè in una simbologia che diventa di nuovo un patriarcato riaffermato e che è dispensato a tutti. Allora uno uccide il vicino e vabbè, capito? Cioè c'è questa, come dire, inglobamento in una visione del mondo che continua a interpretare un simbolico di un maschile antico, antico per dire, quello che nei secoli si è poi strutturato, che dovrebbe andare bene anche per le donne. Naturalmente le donne si illudono che questo succeda, perché poi di fatto si vede che fanno finta di darci dei diritti, fanno finta di trovarci uguale, anzi dicono poverini quegli uomini che ammazzano le donne perché hanno molto sofferto. Cioè c'è tutta una contraddizione che è lì da vedere. Allora se noi donne non ci apriamo di nuovo gli occhietti e vediamo fino al pelo queste contraddizioni pericolosissime, perché le donne appunto che pensano di fare carriera, la meritocrazia alla grande, ecco, fa quelle famose, inventa quelle famose femministe di Stato che si integrano, per cui invece che ritrarsi da tutto ciò, tutto viene come accettato perché tanto ce l'ho anch'io, non so se riesco. Ecco, i problemi sono molto complessi, anche perché poi intanto c'è stato tutto un percorso anche di délabré, dicono i francesi, dei rapporti e dei valori che alle donne piacciono e a cui fare riferimento, no? In più c'è sì, questa invece rigurgito, no, forse continuo, a quello che tu dicevi del coinvolgimento emotivo sentimentale, dove appunto è chiaro che una donna che è madre non può non amare i suoi bambini, no? Il fatto che esista un'alterità biologica e anche strutturata culturalmente che determina l'alterità come un'alterità eterosessuale pura e semplice, ma di quelle proprio fondamentaliste, perché poi, come appunto poi io opero, il relativo plurale è invece quello da tenere in considerazione, perché una donna non è una donna perché forse potrebbe chissà fare dei figli, oppure lo desidera più o meno, ma perché, con chi, come, quando. E lo stesso in qualche modo potrebbe essere per un uomo, perché un uomo deve essere forzuto, cazzuto e tutto qua, perché gli hanno detto che deve essere così, no? Ecco. Però è vero che questo tipo, cazzuto, buzzurro, è quello che ha più vinto in qualche... anche nell'elaborazione economica di chi ha più potere. Teniamo conto anche che adesso questo potere economico è più nelle mani e nella questione della potenza finanziaria più che dei capitalisti veri e propri. In più io penso che adesso il più potere economico ce l'hanno i manager, non ce li hanno i proprietari di fabbrica, sono i manager che approfittano, ecco, è come se aderissero facendo finta di essere loro. Però approfittano di una simbologia e di una materializzazione dei rapporti di mercificazione, di produzione, che li fa belli. E così può succedere anche alle donne, perché se le donne riescono ad essere i manager della più grande fabbrica del mondo, sono sedotte da quel maschile, non dagli uomini in sé, perché gli uomini in sé credo che ormai seducano un po' poco. Però il coinvolgimento emotivo resta, perché, e qui arrivo all'autocoscienza, perché la strutturazione del riconoscimento e dell'amore donato da chi ti mette al mondo è dato dal fatto che tu devi rispondere in quel modo lì in cui ti dicono che devi rispondere, se no non verrai mai amata. Capite cosa intendo? Se vuoi avere riconoscimento devi chiederlo a quelle persone lì, a quei modi di essere, cioè chi ha il potere di dartelo, e questo continua per tutta la vita. Per le donne ancora di più, perché almeno negli uomini c'è: sì, io non chiedo più riconoscimento al capitalista, però voglio diventare, non so, il capo dei sindacati, non so, cioè una possibilità di prendersi in competizione la stessa cosa, gli uomini ce l'hanno più delle donne. Non so se straparlo. No. Anche perché poi quando io comincio a parlare parlo a macchinetta, mentre prima dicevo che c'avevo il cervello vuoto. Questo per arrivare a cosa? Vabbè, il separatismo l'ho anche già detto, nel senso che è assunzione delle proprie responsabilità. Anche rispetto al maschile, di cui viviamo anche noi. Non è vero che noi non siamo conflittuali, non ci facciamo le seghe sotto le poltrone all'altra, alle donne, parliamo male delle donne, ne facciamo di ogni, uno contro l'altra, o no, da una parte, e dall'altra decidere che tra donne esiste una possibilità di valorizzazione di un'alterità diversa da quella del maschile. Cioè, chi in questo mondo, in questa cultura, come donna, se non assomiglia a un uomo e ne fa, come dire, il suo modo di essere, chi ha la capacità di rappresentare per una donna l'alterità a cui riferirsi? Non esiste, nel senso che le donne tra di loro sono competitive, ma rispetto al fatto che non possono competere con altri che non con le uguali a lei. E allora in quel modo si mette in circolo l'invidia, insomma tutte quelle cose che forse noi conosciamo benissimo, perché frequentando le donne questo viene fuori ogni piezo spinto. Mentre per gli uomini è una cosa normale ed è anche giustificata, perché voglio dire, il loro modo di intendere il mondo è quello della competizione, di essere il capobranco. E qui vabbè, il discorso sugli animali lasciamo perdere. Mentre per le donne questa competizione è in qualche modo, se non con l'intervento del neoliberismo, che le fa diventare competitive con anche gli uomini e anche le donne, uguale, ma nel modo di essere delle donne la competizione non può essere data, nel senso che la competizione dà anche un rispetto e un valore al tuo nemico, in qualche modo, nel tuo contrapposto. Tra donne no, è distruttivo e basta. Per gli uomini lo è a livello continentale, perché poi se pensate alle guerre su cui loro hanno basato tutto il loro possibilità di dominio, possesso e mercificazione, pare che sia il loro mestiere preferito nei secoli. Per le donne questo non può avvenire, perché non sono state educate a farlo, però se fossero state educate a farlo forse l'avrebbero fatto anche loro. Però tutto ciò bisognerebbe riuscire a capire da dove è partito. Io ho una tesi che metto su questo libro, no? Che non ritengo, come appunto ne abbiamo discusso, lei tutto il giorno ieri, oggi, che le donne sono una classe. Io dico che le donne sono un genere, e nella diversità letta, sfruttata e concepita da chi ha voluto prendere il potere su questa capacità della diversità, che è dimostrabile, nel senso che le donne generano bambini, gli uomini devono passare attraverso una donna per poterlo fare. Volevo dirvi anche che mio nipote, che ho un nipote maschio, ha detto alla sua mamma: mamma, perché non mi fai un fratellino, una sorellina, così sono in compagnia? E la mamma gli ha detto: no, io adesso basta solo te, basta. E allora lui ha detto: ma allora lo faccio io. E la mamma gli ha detto, no, tu devi metterti d'accordo con una donna per poterlo fare. Lui è stato zitto, è andato 10 minuti di là, è tornato e ha detto: allora voglio essere una donna. A me ha aperto gli occhi. Cioè, è un aneddoto, è quasi una barzelletta. Ecco, io l'ho detta perché la mia tesi non è che parte dal mio nipote. Però c'è sotto qualcosa. Non voglio dirlo di più, perché nel libro poi io lo dico invece, che è proprio basato su questo, il potere di avere il possesso di una donna, cioè di mettere il marchio sul prodotto della generatività delle donne, è stato il fondamento del creare le donne anche come classe. Fai i bambini, allora te li curi, te li sbazzi, decido io se li fai, se non li fai, gli do io tutti i soldi o l'accumulo che faccio, perché tanto io ti chiudo in casa così tu non puoi più lavorare, cioè è quello che è successo, no? Allora il possesso e la proprietà con i marchi di fabbrica, perché i famosi logos su delle multinazionali, no? Che guai a chi tocca il mio marchio, è lì che parla da sé, è il cognome maschile. Cioè, io ho questa lettura, no? Io penso che per ciascuna delle donne che si interrogano e vogliono trovare la chiave di accesso al perché succede tutto questo orrore, perché di orrore si parla, ognuna ha nel suo percorso la possibilità di svelarselo, di chiarirselo, di parlarne con tutte le altre. E nell'autocoscienza questa messa in discussione anche di sé rispetto alle proprie credenze, no? E beh, gli uomini sono più forti, hanno i muscoli, cioè tutte quelle, come diciamo, tutte quelle scuse e giustificazioni nell'autocoscienza dovrebbero, perché ci si deve provare, venir meno, anche perché di fronte a alterità così difformi tra di noi, perché io ho scoperto la diversità frequentando le donne, per me gli uomini sono tutti uguali, magari per voi no, ma per me erano proprio diventati tutti uguali. Nelle donne ho scoperto che esiste la diversità, non la differenza, la diversità. E questa, per gestirla, a riuscire a gestirla, sarebbe la rivoluzione, secondo me, di tutto l'impianto culturale, economico, eccetera. Nel mio libro parlo di questo luogo terzo in cui appunto c'è l'accoglienza di tutti questi relativi plurali, cioè le donne sono sì, genitalmente possono anche essere donne, però il modo in cui lo vivono, decidono di metterlo in atto o non metterlo in atto, saranno cavoli loro, di ciascuna, voglio dire. E lo stesso per gli uomini, no? Per essere uomo devo essere forzuto, avere un'erezione ogni 5 secondi, cioè una roba da infarto per tutti, no? E io penso che in qualche modo negli ultimi tempi questa cosa della sessualità relativa stia sfociando, no? Adesso si continuano a chiamare lesbiche o gay, LGBT, quella sigla lì che non mi ricordo mai, giusta? Ecco. Dove appunto si mette anche in discussione, ma perché io devo essere proprio così, vorrei essere invece un'altra cosa. L'unico difetto è che l'individuazione di questa propria diversità è messa sempre in confronto a diversità già quelle fondamentaliste, no? O maschio o femmina. Ma cosa vuol dire o maschio o femmina? Ecco, io sono di quello. Per cui per la parzialità di ciascuna e di ciascuno, se poi loro si convinceranno che è meglio. Per cui appunto, e questa dà la possibilità intanto della libertà di scelta e di costruzione di un paradigma diverso dove nessuno pensa di essere meglio dell'altro. Oppure anche il cambiamento, la valorizzazione più del lavoro intellettuale di quello materiale è basato su le donne sono la fabbrica, chi invece usa della fabbrica per fare i prodotti è il marchio, no? Cioè la materialità e l'intellettualità che sono sempre state un po' attribuite, di quale la materia sono le donne, gli uomini sono i pensieri, che poi si contraddicono perché poi invece sono quelli più forti, no? Comunque è un misto micidiale ed è chiaro che è difficile affrontarlo. Io penso che l'unico modo di affrontarlo è di cominciare a lavorare su se stesse e sui propri riferimenti, con la scoperta delle infinite meravigliose alterità che le donne ti mostrano quando te le raccontano. Naturalmente nell'intervista poi parlo anche delle difficoltà, no? di questa pratica, però quella pratica lì è quella che ha informato la fierezza delle donne dell'inizio del movimento. Io poi voglio aggiungere che non mi sono mai riconosciuta nel femminismo, ho sempre odiato le parole che finivano in ismo. E noi ci definivamo donne in movimento, o movimento delle donne. Questo lo volevo aggiungere perché adesso si parla molto anche di una rivalutazione del femminismo, no? O dei femminismi, perché ce n'è tanti, come dicevi. Ma ce ne sono tanti perché io, dal mio punto di vista, le donne non si sono concentrate a capire chi sono in prima persona e chi sono insieme, separate e tentando questa separazione dai riferimenti, diciamo, del potere e di ciò che le ha rese così in qualche modo dentro in una sindrome di Stoccolma, perché poi la violenza ha avuto la sua parte, perché chi è che si è inventato lo stupro, insomma. Ecco, non so, cioè è anche una questione di come si esprime un sesso piuttosto che l'altro, no? Per cui anche il discorso sulla sessualità, che è stato interrotto da secoli e secoli anche nelle donne attualmente, è una delle cose da riprendere. Anche se poi, parlandone con le donne, puoi anche scoprire che la sessualità femminile non è tutta uguale. Ecco, il relativo plurale. Vabbè, nel mio libro ne parlo di più, ma adesso forse li ho vi ho sommerse? E meno male che faceva troppo caldo. Cosa volevo dire adesso? Insomma, allora l'ultima cosa è che l'autocoscienza è anche una metodologia di mettere in atto una possibilità di capirsi tra donne, nel senso che nell'autocoscienza crei un linguaggio che è quello dell'ascolto prima che del giudizio, per cui tu ascolti e ciò che la diversità dell'altra ti rappresenta è qualcosa che, con cui devi fare i conti e, come dire, riferirla a te. Ma perché io invece... ecco, allora lì io ho scoperto la relatività e per le donne anche la libertà, come dire, di riconoscersi per quello che sono e anche di cercare una modificazione, di capire anche poi collettivamente oltre che individualmente ed avere la capacità di una lettura del cosiddetto fuori, cosiddetto perché è meglio essere noi fuori che essere dentro, per dare, come dire, delle valutazioni e togliere valore a quello a cui noi sembrerebbe aspirare, la parità. La parità di far che? Di stuprare qualcuno? Di ammazzare la moglie perché ti lascia? Cioè, che parità è che chiediamo? Quella di avere lo stesso voto per decidere se andare in guerra o no? Cioè, è una cosa, secondo me, che si mangia poi la coda, perché poi la parte, come dire, che viene propinata è che tu allora c'hai un potere di decidere, no? Però del decidere cosa non ne parla nessuno. Vabbè, basta. Fermatemi, per favore. Perché poi penso di avere poco tempo a disposizione, sono invecchiata. Allora mi è venuta questa rabbia, non ti dico cosa mi hanno detto alcune, ma che titolo, anzi che sottotitolo. E in più ho usato scandaloso anche un linguaggio un po' scurrile molto spesso, tipo pane al pane, pene al pene. Vabbè, chi l'ha letto l'avrà visto. Poi nell'ultima parte cerco, come dire, di mettere a frutto ciò che ho capito come prospettiva. Ecco, io penso che di prospettive abbiamo bisogno e le prospettive non si creano perché siamo così separate tra di noi, così non comunicabili tra di noi, che una fa questo e l'altra fa l'opposto. Cioè, la sperimentazione va anche sempre bene, voglio dire, però se tu sperimenti almeno dopo comunichi che cosa hai capito, che cosa non hai capito, se ho sbagliato o non ho sbagliato, ed è l'autocoscienza che ti dà questa possibilità. No, dai, fermatemi davvero. No, no, è il caldo che mi dà. Guarda, 5 minuti, 5 minuti non sono tanti. Quanto? 20 minuti? Non sono tanti. No, è vero quello che ha detto Daniela, che abbiamo parlato praticamente 24 ore di seguito. 24 ore di seguito per un motivo, nel senso, così, tanto per dire una cosa di partenza, è che noi come coordinamento abbiamo colto nel libro di Daniela un comune obiettivo, cioè questa voglia di uscire, di dire le cose come stanno, di uscire da questa società e di cercare delle strade, perché tutte le strade che si pongono il problema di non restare qui dentro e di uscire da una situazione di oppressione, e parlo della nostra in particolare, sono strade di liberazione. E quindi abbiamo colto questa affinità di fondo. Io parlo per me in maniera specifica riguardo a quello che ci siamo dette poi in queste ore. Dovevamo registrarci. Perché chiaramente io parto da un presupposto diverso, anche se poi di fatto tante cose si intrecciano, poi vengono fuori in maniera molto simile. però il presupposto è che il patriarcato è un modello economico, cioè non è che il patriarcato è qualcosa che è nato da niente o che improvvisamente i maschi hanno deciso che volevano sottomettere le donne. Cioè, perché no? È perché per sottomettere le donne ci deve essere, o per sottomettere chiunque, come anche per l'oppressione di razza e compagnia, ci deve essere un motivo valido, e il motivo valido nella storia è sempre un motivo di potere, ma economico. Nel senso, se è vero quello che ci diciamo, anche se in maniera approssimativa e parziale, che un tempo le donne avevano un certo potere sociale e avevano impostato un modello redistributivo per cui loro erano il recettore della ricchezza del villaggio, del posto, di quello che è, e lo ridistribuivano questa ricchezza in maniera orizzontale. Il patriarcato tuttora in certi posti. Sì, no? Cioè è un modello, questo è un modello economico di redistributivo. Nel momento in cui qualcuno, in questo caso un maschio, perché di solito chi ha il potere non cerca un altro modello produttivo, in quel caso le donne avevano una loro modalità, non cercano un altro modello produttivo. Se qualcuno scopre, e di solito questo è avvenuto con l'agricoltura, la coltivazione, la stanzialità, che impostando non un modello orizzontale ma un modello gerarchico e specializzato si otteneva un'accumulazione maggiore, viene fuori un modello che è vincente. E il patriarcato è un modello che funziona dal punto di vista dell'accumulazione e della messa al lavoro dei soggetti in maniera eccellente, tanto vero che l'hanno fatta che l'hanno fatto proprio tutti i tutte le società, che pure sono state molto diverse, cioè quella egizia non era quella feudale non è quella capitalista, però l'hanno fatto proprio. Allora, se il patriarcato è un modello economico che imposta i soggetti messi al lavoro in un certo modo, quindi noi come soggettività femminile siamo soggette in maniera gerarchica al maschile in una strutturazione funzionale all'ottenimento di un risultato economico, noi è questo che dobbiamo scardinare in questa società. Ed è qui che dobbiamo partire. Le donne erano d'accordo? No, che c'entra? Uno per essere soggetta non è che deve. Beh, modello economico significa che qualcuno, mettendo al lavoro le soggettività in un certo modo, ha ottenuto tanto. Perché il modello precedente era femminile, alle donne perché doveva venire in mente di cambiarlo? L'ha cambiato chi ha deciso che aveva un vantaggio. E ancora noi siamo lì, sì, perché a sempre livello simbolico era una valorizzazione dei modi di essere della specie diversa, no? Dove appunto no, non c'era la gerarchia. Quale? Quella delle donne? Nel matriarcato. La produttività di un sistema, quando un sistema funziona e dà profitto, non si preoccupa assolutamente del fatto che quello di prima è più bello, più carino, più qualitario, più... I meccanismi sono altri, no? C'è molto tempo perché le cose cambiassero, non è che da un giorno all'altro... Esatto, non è che da un giorno all'altro, nel momento in cui c'è una produttività di questo tipo, chi ha impostato una filiera gerarchica dice: allora se io, tu donna, stai lì perché mi fai più figli, più braccia servono a più accumulazione perché mi lavorano nell'agricoltura. Chi? Il maschile, ecco, e altrimenti il patriarcato viene da lì. Ecco, appunto. Appunto, viene allora, da lì, ma non è una volontà patriarcale, perché è un modello maschile dell'economia, punto. No, è un modello dell'economia che dà valore al maschile, al contrario. Vabbè, finiamola qua. Sì. Vabbè, poi appunto tieni. La prossima volta vi registrate così lo ascoltiamo. La prossima volta lo registrate così ce lo, ci fate un sunto. No, io vabbè, sono anch'io della coordinamenta e la parte che mi è piaciuta di più, anche perché insomma quello che già Margherita e Elisabetta hanno tirato fuori, non vorrei ripetermi, è proprio rispetto alla questione del dualismo, cioè di questo uno e di questo due. E secondo me, io l'ho vista molto, e tu comunque nel libro ogni tanto lo dici usando anche diversi esempi, insomma anche quello che fai sull'arte, no? Su come vengono costruite le città, sui monumenti, no? Cioè tutto che è un riferimento comunque al maschile, al fallo e quant'altro, mi ha fatto pensare soprattutto come vissuto personale, che non è solo il mio, insomma, molto spesso ne abbiamo discusso anche con le altre, di proprio la questione appunto di doversi rapportare in un ambiente appunto che è misto. Io faccio in un altro collettivo territoriale misto con altri compagni, e molto spesso appunto ti ritrovi a dover spiegare perché sei femminista, ma questo in generale nella società, cioè nel senso, poi al di là appunto del maschio o femmina che ti trovi davanti, cioè quello di cui tu parli, cioè quel dualismo in cui il maschile poi viene anche sussunto, cooptato dalle donne, e diventa poi, capito, quella situazione in cui devi spiegare perché sei femminista, e nell'ambito diciamo compagnesco appunto o gli dai una lettura quasi perfetta dal punto di vista politico, cioè nel senso devi essere veramente la prima della classe nel momento in cui non sei costretta, all'inizio ti senti costretta quando non riesci a, cioè nel senso il passaggio di cui parlava Margherita, no? Quando cominci ad affrontare invece la politica in maniera separatista, e quindi anche, no, diciamo, non abbiamo mai fatto autocoscienza, però è ovvio che poi nelle nostre, diciamo, riunioni, nelle nostre assemblee c'è una parte in cui fondamentalmente tiriamo fuori quello che siamo e quello che vogliamo essere, e quindi, cioè, nel senso, lavoriamo su noi stesse proprio. Quindi in qualche modo, anche non volendo, poi alla fine si fa. E nel momento in cui non arrivi a quel processo, a quel salto verso, insomma, appunto l'unione tra, appunto, tra donne, tra questo femminile, insomma, il rifiuto del maschile di cui parli, ti trovi invece in questo appunto mondo che è distruzione, perché poi in realtà è questo, cioè nel senso una continua competizione, una continua. E secondo me, cioè nel senso, io ho trovato molto interessante soprattutto il linguaggio che hai usato, cioè nel senso pure il fatto che sei stata scurrile e forte nel linguaggio, va bene, perché c'è, cioè, nel senso, proprio perché dal mondo, da questa società maschile è sempre richiesto invece il stare a punti, stare a posto, essere a modino, stare là, spiegare sempre tutto con tranquillità, perché sennò se non ti capiscono sei tu che non ti sei fatta capire. E invece, cioè, nel senso, il rivendicarsi il fatto, anche quello che dicevi prima, no, che non sono io che ti devo accettare, cioè, che mi devo accettare. Ma io sono quello che sono, punto, basta, cioè non cerco in te il riconoscimento, io mi riconosco e basta. Poi se vuoi, bene, ma sono io che sono nel giusto, non sei tu. Quindi questa è una cosa che è forte, che mi è piaciuto un sacco. Allora, volevo dire tanto. Sì, sempre registrare mi mette più ansia quando devo parlare. No, che prima c'è stato un accenno, ma c'è, cioè, anche nel libro il discorso, prima si diceva sulla diversità e il riconoscimento della diversità tra le donne, ma non solo tra le donne, adesso c'è tutta una serie di prese di coscienza che vengono anche dai movimenti LGBT, eccetera. Anche se, e io mi sono ritrovata anche a discutere con, tra l'altro, anche con persone con cui sono legata, cioè, da rapporti forti, d'amicizia e stima, facciamo due percorsi in parte simili, in parte diversi, rispetto a questioni che secondo me vengono travisate e che sono legate sempre a questa dinamica per cui ti danno i diritti, ti danno l'illusione che puoi avere tutto, poi alla fine tutto chi è che ce lo può avere, in realtà non ce l'ha nessuno sto tutto, in termini di possibilità, e che questo ha, diciamo, non si fa luce sul fatto che se tutti possono avere tutto indistintamente, questo gioco forza consente una dinamica di esercizio di potere sul prossimo. E quindi la mia domanda era sulla mercificazione anche della del meccanismo procreativo, di tutti i processi di anche sì, ecco perché dico la classe, il discorso sulla classe, su economico, il discorso sulla presa di coscienza su di sé, sul sì, son questioni complesse, son legate, chi viene prima l'uno o viene prima l'altra, nel senso che da parte di tanti che fanno parte dei movimenti LGBT io mi sento fare dei discorsi sull'autodeterminazione della donna, che io mi riguardo, dico, ma che ne sai te dell'autodeterminazione? Sì, no, nel senso ci troviamo in disaccordo, ma non, cioè, nel momento in cui tu ci metti di mezzo i quattrini è difficile parlare di autodeterminazione o... insomma, non gli sfugge. Perché? Perché possono esercitare un diritto che io vedo come un'affermazione ulteriore della perpetrazione del proprio lignaggio genetico, quel cognome, anche perché poi vai a scegliere su un catalogo a tendina, quello biondo costa più di quello di colore, cioè, perché poi alla fine è questo. Voglio dire che in questa cultura il corpo non è stato una merce o una fabbrica, un bambino nel patriarcato, ma per un'oggettività genetica, vabbè, comunque questa è un'altra questione, ma è la domanda qual era? Sì, come fa a combaciare il senso? Siccome c'è una lotta per l'affermazione delle diversità e per la presa di coscienza che è delle donne, sia... che si attua in tanti percorsi, però se poi si declinano anche in questo modo la lotta della coscienza, il problema dove sta, dove lo andiamo a risolvere? Ecco, capito? Sì, quella è la contraddizione che io vedo. No, ma nel senso che non credo che si possa risolvere oggettivamente se è giusto o non giusto comprare un bambino, farglielo fare in affitto o non affitto, se non hai fatto un processo di destrutturazione totale e ritrazione da una metodologia economica patriarcale, aggiungo l'economica, di cui appunto non puoi prescindere dati di fatto. Allora c'è quello che valuta, ah, ma le donne possono decidere di regalare i bambini, no? Sempre il femminile che cura, pulisce, regala, il dono, e dall'altro che roba, sono come delle prostitute, danno in affitto l'utero al posto della figa, scusi l'espressione, dato che sono sempre un po' però sono parole vere, poi le parole sono materia, non è finzione, per cui come fai a prendere una decisione e di schierarsi? Io per esempio non mi schiero, non, è una mia posizione, non voglio schierarmi nel decidere cos'è bene e cos'è male, perché bisogna che le cose evolvano in un modo in cui la consapevolezza del poter leggere, chiarire e cambiare maturi nel tempo, perché dopo secoli di mercificazione, di sfruttamento dei corpi, comprese i fegati e cose che ti tirano via senza neanche a saperlo, a volte alcuni, no? Gli danno la botta in testa. Cioè questo disprezzo anche del corpo, cioè come fai a decidere? Perché io ipoteticamente posso pensare che in una cultura in cui appunto si rispetta il relativo parziale, dove appunto la cura è una cosa rigenerativa per tutti, non solo perché le donne devono, vecchi, bambini, vedovi, tutto loro, posso anche ipotizzare che se c'è una donna che non può avere un bambino e dice a una sua amica mi aiuti, mi fai qualcosa, può darsi, io non dico che fa bene, dico che può, cioè, succedere, sì, se voglio che appunto lei si senta rigenerata grazie anche alla mia imparzialità, perché è un parziale, perché non è il bimbo mio, è il bimbo suo, riconosco che la mia parzialità può dare una pienezza a lei. Ma io sto facendo un'ipotesi, perché non è che voglio dire che è giusto. Sarebbe, potrebbe essere giusto in un paradigma in cui c'è appunto il rispetto delle, ecco, e soprattutto delle parzialità. Perché poi nella parzialità la cosa che a me affascina è che sa la parzialità sa gestire la propria dipendenza e quella altrui. Perché se uno si crede non plus ultra, non riconosce la sua dipendenza da nessuno e non riconosce che anche gli altri dipendono da lui. Per cui c'è una reciprocità già di per sé possibile. Io poi continuo a parlare del possibile perché la Dea mi ha dato questa frizzon che ho voglia di ipotesi che appunto a me mi succede di farlo. Però ti volevo spiegare che è difficile pigliare posizioni in una situazione di questo tipo, perché è chiaro che ci si infila dentro alcuni di tutti i problemi che ci sono, no? Le donne devono far bambini per tutte quelle che gli chiedono, cosa che gli uomini hanno sempre fatto rispetto alle donne, perché le donne sono state le fattrici come mucche per fargli i bambini. Appunto, allora continuiamo così che le donne sono le fattrici per cui devono. Io ho apprezzato per esempio la Aspesi che dice la maggior libertà delle donne è quella adesso di non fare figli. Io dico che per adesso è proprio vero. Tenete conto che nel matriarcato anche attuale di figli ne fanno pochissimi, pochissimi, forse per quello che non si sono tanto espansi, perché guardano di più alla rigenerazione, allo star bene di quei pochi. Avete telefonato, avete dato i 2 euro per il povero negretto che muore, eh? Cioè sono lì tutti che poveri, poveri, portate il vostro ovulo e quelli fanno nascere. Costringono le donne a non abortire, a essere stuprate tranquillamente, per cui facciamo tanti figli. L'accumulo, che non è soltanto economico, che porta al disastro, perché quei bambini lì li butti nella ruera, nel senso che ruera in milanese vuol dire la spazzatura, come se fossero dei cibi avariati, no? Però i cibi avariati li costruisci tu, perché c'è la Monsalvo che fa questo. Dopodiché ce ne sono così tanti, come dico io anche nel libro, 3.000 tipi di pantofole, a chi è che vanno bene tutte queste 3.000 tipi di pantofole? Li butto via, non li do a quelli che le pantofole non ce l'hanno. Cioè una cosa di un'assurdità che io a volte di notte mi sveglio un po' incazzata. Come ti incazzavo pure io che... Ecco, e io vorrei che noi donne riuscissimo a capircelo, a dircelo. Vabbè, insomma. Però dopo 2000 secoli di questa solfa non è che domani ce l'abbiamo risolta, eh? Io mi rigirerò nella tomba di sicuro. Alla mia amica gli ho detto anche che andrò a tirargli i piedi. Di no. Vuoi scegliere? Vabbè, mi scuso un po' per la mia irruenza, ma... No, dai, meno male. Intanto, sì, vabbè. Ci scuotiamo dal nostro perfettismo. No, ma a volte, da come... forse impedisce ad altre, no? Però cioè, troppa irruenza, è un po' maschile, scusate. Questo dibattito sull'utero in affitto, no? Mi fa pensare una cosa, mi ha sempre fatto pensare una cosa da quando è uscito, che alla fine, come si diceva, il corpo delle donne sempre una fabbrica è stato, il lavoro riproduttivo sempre alle donne è stato affidato. Questo è, diciamo, è una nuova tecnologia che viene applicata, no? Dentro a questo campo, dentro a questo sistema, che però sempre quello è. Quindi le donne, le femministe, la lotta delle donne, insomma, nel corso del tempo sempre di questo si è occupata anche, no? Tra le altre cose. Quindi, e invece ogni volta sono questi dibattiti, no? Che provano un po' a dare del nuovo sempre a tutto, così da farti ricominciare da capo e distoglierti dal percorso invece che tu stai facendo, no? Allora, in questo entra di nuovo il separatismo come una pratica che, se noi ci dobbiamo affermare per noi stesse, no? La stessa cosa vale anche per i nostri percorsi politici, per la nostra presa di parola pubblica, per il discorso che andiamo costruendo, no? E invece effettivamente al momento c'è una grossa difficoltà, non solo delle donne ma anche dei movimenti in generale, ad andare per la propria strada, cioè siamo sempre al ricasco dell'emergenza, dell'emergenzialità, no? È tutto questo che tutto cambia, oddio, sì, tutto cambia per non cambiare, però è vero, la scala è più grande, no? C'è un mondo globalizzato, le sfide si sono fatte più importanti, sicuramente delle categorie vanno aggiornate, sicuramente dei nuovi strumenti devono essere, però non possiamo, cioè noi ci facciamo un po' dettare la nostra agenda politica dalla controparte. E come donne, effettivamente, se rinunciamo a questa pratica separata, finiamo per fare la stessa cosa, finiamo per lottare, cioè finiamo per non riconoscere neanche più i nostri desideri e quello che noi vogliamo rivendicare, perché siamo troppo concentrate e sfinite dallo stare dentro un sistema che ci costringe tutte le volte a lottare per non farci togliere quello che già ci abbiamo, ma in attacco non ci andremo mai proprio. E invece, cioè, io nel separatismo trovo anche questo rispetto alla politica mista, cioè questa possibilità ogni tanto di dire va bene, un bel respiro, liberiamoci, capito, da questa agenda, da questa fretta, da questa emergenzialità, anche perché sono momenti complessi, sono passaggi un po' epocali quelli che, no? Cioè effettivamente i nodi vanno un attimo rimessi in ordine, e allora... Cioè, e mi sembra, non so se lo intendi pure te così, questo il separatismo, cioè questa affermazione per me stessa, in me stessa, no? Sì, è quello che è la cosa più importante, secondo me. Cioè, abbiamo avuto questa quello discussione. Quello di essere fiere di quello che capisci tu e progetti tu, perché poi tutto ciò deve arrivare a una progettualità autonoma, che solo il separatismo in questo momento può fare. Abbiamo avuto questo problema pure con la progettualità violenza autonoma, e gli uomini non credo che possano, l'hanno già fatta anche troppo. Sì, no, perché abbiamo avuto di recente questo problema noi anche per il corteo che c'è stato qua contro la violenza, no? Cioè che effettivamente, essendo adesso ormai un po' povero e frammentato sto discorso e questa pratica femminista, ci siamo ritrovati a costruire quel corteo sempre in opposizione a Casa Pound che è venuta qua e ci ha messo la bandierina sopra, il TG che ha detto quello, cioè è chiaro che tu nella contingenza devi rispondere, no? A quello. Se ti succede lo fai, ecco, poi ti chiedi ma perché lo faccio e poi dopo decidi. Il adesso è diventata una questione tra virgolette emergenziale, però sono 30 anni che esiste la pratica la pratica dell'utero in affitto, sono tanti anni che si ma infatti l'emergenzialità sta, ma poi gli eterologi il fatto che fanno uscire a seconda, cioè nel senso ora non è che parla dietrologa, però effettivamente adesso vanno di moda di nuovo i femminicidi, e allora ci sono 700 articoli di giornale che parlano dei femminicidi come se non avvenissero tutti i giorni, però a questo periodo si sono concentrati e quindi ne parliamo. È un po' come quando d'estate i cani mangiano i bambini, cioè nel senso è la stessa come cosa, i comunisti, cioè, ci stanno i periodi in cui comunque questa cosa, quando è stata la cosa della questione dell'utero in affitto, andava di moda e quindi trovavi 400 articoli su quella cosa. Chissà quest'estate che cosa si diventeranno e qual è la questione che si interesserà. Magari si dimenticheranno che ci sono i femminicidi, probabilmente. Beh, quella era un po' funzionale per movimenti politici, c'era l'approvazione in Parlamento. A proposito di questo, mi verrebbe da dire che a me non sarebbe dispiaciuto che sentire da parte dei movimenti LGTB che di contestare e di non richiedere il matrimonio, l'istituzionalizzazione, cioè reiterano, no? La stessa dinamica tua. Insomma, io anch'io ho un percorso lungo dentro il femminismo, ed è un femminismo che si è sempre collocato, il mio, a sinistra, nemmeno tanto separatista, laddove l'ho trovato necessario, sì, ma non come scelta di partenza, insomma, incontri separatisti e impegno anche collettivo. Questa è la mia esperienza e la mia storia. Sì, non lo sto proponendo come modello in questo. Però appunto ciò che mi ha colpito in negativo, e non da adesso, è stata proprio la battaglia di di tutti coloro che volevano mettere in discussione la dimensione di coppia eterosessuale, rivendicando modelli che sono quelli che l'hanno istituzionalizzata e hanno, attraverso i quali si è costruito anche il patriarcato, evidentemente, no? Cosa che invece questa non è stata fatta. Rispetto al non fare figli, io ho trovato interessante, dentro di me era qualche anno che mi dicevo, dovremmo arrivare a dichiarare lo sciopero dei figli, cioè non ne facciamo, cioè proprio dichiariamo che apposta politicamente interrompiamo questa pratica. All'inizio, no? Nel movimento era successo. Era successo, la non anche dirlo. Ma allora, anche no, il problema è quello, adesso tant'è vero che oggi si tratterebbe di ragionare sul fatto che l'Occidente decrepito non ne fa più di figli, no? E senza nemmeno chiederselo, magari ragionandoci su e mettendoci un calibro di pensiero e di politica che risollevi certe questioni, perché è assolutamente evidente, almeno in questo ambiente, in un contesto come questo, che il neoliberismo è tutt'altro che la sconfitta del patriarcato e della dimensione anche solo emancipatoria, sì, anche solo emancipatoria del femminile, insomma, evidentemente. L'ultima cosa è che anch'io credo che non sia solo una questione economica, c'è un problema di modello di potere, e il potere non è di dominio, e questo non passa solo per la dimensione economica. Passa per tutta una serie di altri rapporti, relazioni, eccetera, che invece è proprio, e se è laddove tu individui nell'economico, Lena? Ma dove parlo tu? Ma io tra un po' sala fumatori. In sala fumatori, anch'io mi ero spostata qua prima per andare in sala fumatori, poi non so. Quindi da questo punto di vista, anzi, a me interessa mettere in campo quella parte di intanto mi piacerebbe mettere in discussione il potere in quanto tale. La dimensione del potere per me è, che ne so, poter fare, no? Chiaro che il verbo potere, io posso fare questo, posso fare altro, in ragione fino al limite dell'altro e dell'altra, evidentemente, no? In questa accezione, ok, ma la dimensione del potere in quanto tale, la concezione del potere, vorrei che venisse messa in discussione, intanto dalle donne. E il problema è che il potere non è qualcosa di astratto, il potere è una esplicitazione della vittoria di un rapporto di forza. Quindi nel momento in cui qualcuno ha vinto un rapporto di forza, esplica potere. E questo è il potere, quindi parlare del potere senza parlare della struttura a cui questo potere si riferisce non ha senso. Ma parlare di questo potere senza tener conto che oltre alla struttura economica sono molti altri gli elementi che mentre viene a cascata, nel senso che la morale, la cultura, tutto quello che rappresenta una società è un'esplicitazione di un modello sociale. Per cui se noi parliamo di un potere all'interno di una società, è chiaro che parliamo di un modello sociale, un potere all'interno di questa società si esplica in determinati modi. Non è che sono due cose intrecciate, il potere è solo una cosa, il potere è l'esplicitazione di un rapporto di forza. Economia, modello economico e patriarcato sono due cose che si presuppongono. Il patriarcato è un modello economico. Capitalismo, diciamo, quello attuale. Il capitalismo è un modello economico. È un modello di potere che determina l'economia. No, il potere non è mai una cosa astratta. Non l'hanno fatto, non ci sono. È impossibile, che il potere non è una cosa astratta, altrimenti dovresti accettare che esiste. Potere sul fattore generativo delle donne. Vabbè, io l'ho detto nel libro. Sì, va bene, è inutile che stiamo a perché poi le donne non le hanno mai riconosciuto, perché in fondo se poi mettono al mondo i figli è perché a qualcuno gli ha dato un semino in più, ecco. Allora questo va riconosciuto, perché se si sono incazzato così tanto, bisogna divenire. Allora, facciamo una cosa. A proposito della, dell'autocoscienza, a cui eravamo arrivate prima, quindi ci perdiamo, no? Ci perdiamo. E il fatto che tu hai un gruppo di autocoscienza a Milano di donne. Ah, facciamo vedere le faccende. Esatto, facciamo vedere. Signore, le faccende. Io vi devo lasciare se perché il lavoro e il capitalismo. Non vorrei vedere le faccende delle milanesi. Allora, vediamo un attimo di mandarlo, perché allora, così... due minuti! Chiamo le altre? Sì. Chiamo le fumatrici. Chiamo le fumatrici. Si vede? No, no, ancora no. Sul computer sì, ma prima era tutto bello acceso. Eh sì. Lo so, però questo è andato in stand-by e quindi forse anche quello. Sì, sì, esatto. Ancora no? Epson, no, si vede vagamente qualcosa. Aspetta, che... comincia, dai. No, perché c'è il bastone. Voi potrete notare le differenze enormi di età, compresa io naturalmente che non ci sono, però in questo momento. Vado? Vai, la non si sente. Voce. Non si sente. Ah, è al massimo. Vai, alza. È al massimo. Forse anche il computer deve essere. È al massimo. Aspetta, vediamo, aspettate. Allora. E lì è il suo YouTube? Su YouTube è al massimo, il computer è al massimo, no. Il proiettore è al massimo. Quindi zitte! Aspetta, qua, forse. Ok, bravo. Rivoluzionario. Sento che mi arricchisce della mia crescita, delle mie pressioni, da modo di parlare con le... Andiamo all'inizio. Rimandalo dall'inizio. Guarda me stessa, è un lavoro su di sé, anche rivoluzionario. Sento che mi arricchisce nella mia crescita, nel mio pensiero, mi dà modo di parlare con le donne, come se andassi a incontrare me, senza solo strutture. Ognuna di loro mi ridà una faccia di me e pone una domanda. Con la faccia e con la testa insieme? Ognuna cresce insieme alle altre. Senza nessuna censura. L'autocoscienza è una pratica. Per me è come andare in palestra. Essere qui è portatore di subbuglio. Avevo questa curiosità fortissima di scoprire cos'era questa pratica così mitologica. E da modo di pormi anche degli interrogativi. E più vado avanti, più diventa importante. Io mi sono trovata a provare affetto, simpatia, perdone, però quando non avrei mai scambiato una parola. Si formano dei reticoli, dei legami tra le donne che partecipano. È come se io avessi attraverso anche le altre. Ma come un acceleratore. Tu rimani sempre tu, però hai un potenziamento di quello che vuoi o di quello che senti. Io sento che porta anche dei cambiamenti anche nella mia vita, nel come mi guardo, anche nel come mi racconto. Forse è più facile vederlo nelle altre, ce lo siamo dette. Io ho visto le donne tirare sulla testa, cambiare proprio. È come dire una ripresa forte della riflessione femminista. Un'esperienza proprio bella, bella come quelle belle. Come un viaggio, insomma, che tu parti in questa sorta di giostra che ti fa girare. A volte anche tutta la vita. C'è su YouTube? Sì, c'è. Sì, sì, sì. Come un viaggio. A me? È stato girato alla Casa delle Donne di Milano, dove io sono, faccio questo gruppo. E come avete visto ci sono delle come, delle anziane come me, che tra l'altro hanno già fatto a suo tempo. Tra l'altro in questo gruppo c'è anche la Laura Lepeti, non so se la conoscete, quella della tartaruga. Per cui ci sono quelle che trovano le differenze di allora e riscontrano invece il fermo uguale rispetto invece alle cosiddette più giovani, no? Cioè che certe cose sono incistate e si ripresentano tali e quali. Per cui c'è anche questo rapporto intergenerazionale che è uno dei problemi, secondo me, no? Attualmente. Tutti che dicono, ma dove sono le giovani? Cosa fanno le giovani? Eccole qua, dai, queste sono tante. Ma ci sono, ma vedi, siete già separati. No, a me è piaciuto molto un passaggio, che è quello in cui una delle tue, dell'autocoscienza, dice che è un'accelerazione. Perché? Perché questa sensazione l'ho provata anch'io diverse volte. Quando metti in atto delle pratiche separate, cioè quando vedi tra donne, e in questo caso diciamo noi tra compagne e tra femministe, perché poi ci sarebbe un discorso da fare su questo che in questo momento mi porta altrove, però quando ti vedi tra compagne in maniera separatista, tra femministe in maniera separatista, succede che salti tutta una serie di passaggi che ti costringono a fare quando sei in un ambito misto. Sei costretta a dare spiegazioni, sei costretta a parlare di altro, vieni portata altrove, devi sempre ricucire il discorso e riportare. Oltretutto poi c'è un riconoscimento di quello che dici da parte delle altre immediato, perché le altre di solito si ritrovano nelle esperienze di cui una parla. Le capiscono subito, possono anche addirittura non essere d'accordo, non è questo, però le capiscono perché la matrice comune è l'oppressione a cui sono state sottoposte, la costruzione come modello femminile che hanno subito, il risultato che loro sono, e quindi tutte queste cose fanno in modo che ci sia un'immediata comprensione, un'immediata percezione, e questo fa sì che qualsiasi decisione, qualsiasi discussione, qualsiasi anche lite di qualsiasi tipo sia vada immediatamente al sodo, cioè sia costruttiva, vada immediatamente al nocciolo, sia nel bene che nel male. E questo dà la possibilità di avere quell'accelerazione che diceva lei, per cui cresci in maniera molto più veloce, in maniera molto più forte, e produci anche molto di più. Ecco, questo noi l'abbiamo, almeno nella pratica nostra l'abbiamo verificato assolutamente, e siccome poi come coordinamento abbiamo spesso fatto l'analisi, l'elaborazione eccetera eccetera, tutta con pratica separata, però poi spesso abbiamo portato fuori i risultati, nel senso che a un certo punto abbiamo detto sì, allora coinvolgiamo un po' il resto della controparte, no? Vediamo un po' di coinvolgere la controparte, di portargli questi risultati che abbiamo avuto noi e di vedere che cosa succede. Ah, voi condividete poi con... Qualche volta, a un certo punto, decidiamo di portare fuori. E non avviene un'espropriazione? No, portiamo fuori quello che pensiamo sia in quel momento utile e possibile. E rispetto a e quando succedono queste cose, io ho notato che ci fermiamo, cioè non ci danno un tubo, ecco, questo è più che altro. Cioè fatica sprecata. Sto pensando all'espropriazione. No, nel senso che gli dai dei risultati che il patriarcato comunque utilizza. Sì, no, ma i risultati noi li diamo perché abbiamo interesse, soltanto nel momento in cui abbiamo interesse che riflettano su determinate cose. Perché? perché poi c'è i livelli sono diversi. Noi almeno in questo momento parlo per me, non voglio parlare anche per le altre compagne che magari diranno loro. Per me le donne, cioè il riconoscersi non dipende dal termine donna, dipende dal fatto che noi siamo soggette a una comune oppressione e quindi noi ci riconosciamo, il riconoscimento viene da qui. Potremmo anche chiamarci, non so, farfalle Pallini. Quindi il termine è soltanto legato all'oppressione che abbiamo. Però questa oppressione è attraversata anche, cioè pur costituendo noi una classe trasversale, perché tutte le donne sono oppresse allo stesso modo, sia quella poverissima sia quella borghese, l'una e l'altra possono prendere gli schiaffoni, però allo stesso tempo l'insieme donne è attraversato prepotentemente dalla classe sociale e quindi il referente per noi all'interno di un discorso da portare fuori potrebbero essere quelli che parallelamente, non a intreccio, ma parallelamente a noi, portano fuori un percorso di uscita da questa società e che sono i compagni, per esempio, che dovrebbero fare parallelamente dei percorsi loro di uscita da questa società. E quindi in questo contesto noi siamo disposte a portargli a portare dei risultati alla discussione. Però non è mai, io per esperienza tanto costruttiva non è mai. No, anche perché cioè nel senso. Adesso io non ho una grande esperienza da portare qui. Scusa. No, no, no, figurati. Non ti preoccupare. Vai. No, no, volevo cioè, nel senso solo aggiungere un po' a quello che è l'impressione di Elisabetta quando facciamo questi incontri, che intanto secondo me il fatto che li abbiamo sempre fatti con la forma di presentazione in qualche modo ci toglie quello che dicevi tu dell'espropriazione, cioè nel senso io ti sto presentando una cosa, non ti sto chiedendo niente, cioè non devo essere riconosciuta da te, sono io che ti presento quello che ho raggiunto, poi se sei d'accordo o no, bene, certo, poi come dice lei non è che noi ci portiamo a casa il frutto della discussione, insomma, però sappiamo, cioè nel senso noi partiamo già da casa convinte che in realtà siamo noi a sedimentare, cioè nel senso nemmeno a sedimentare, proprio a puntualizzare sul fatto che noi siamo arrivati a quel punto e abbiamo ragione e che loro devono vedere da quel punto di vista, perché se tu sei un compagno, perché vabbè c'hai dei punti di riferimento, cioè hai degli approcci politici differenti, d'accordo, però se tu sei un compagno e quindi comunque per quanto riguarda il nostro approccio femminista comunque è un approccio di classe, se non inserisci anche all'interno, comunque fai spazio e la smetti di essere appunto questo maschile maschio alfa all'interno delle situazioni compagnesche, per quanto ci riguarda non andremo da nessuna parte, a un certo punto proprio cioè ti abbandoniamo, ciao, andiamo da due parti differenti. E siete sulla buona strada? Con pochi, pochi, nel pochi. Nel senso di abbandonare gli interlocutori. Abbandonando sì, la maggior parte dei panorami, almeno cittadini sicuramente, poi nei piccoli collettivi magari no, però sì, insomma, però appunto non c'è nemmeno la pretesa di, perché sennò sarebbe pedagogico, no? Cioè sarebbe appunto di lasciare il dono, cioè più una rimarcazione di quello. Da una parte fare un dono e avere un riconoscimento, cose che le donne hanno sempre fatto. Con gli uomini. Vabbè, non sono così cattiva. Secondo me, dal nostro punto di vista, cioè, uno dei motivi anche di queste presentazioni è che comunque ci ci relazioniamo, facciamo delle cose, eccetera, anche con compagne che non hanno il separatismo nella propria pratica politica, no? Quindi non che non partecipano alle cose separate, perché partecipano anche, per esempio, i convegni, i cui atti poi appunto sono stati oggetto di queste presentazioni miste, sono stati fatti anche da compagne che non hanno collettivi femministi, non hanno esperienze femministe, però quei momenti per me, per esempio, sono anche importanti proprio per noi, compagne, donne, eccetera, per rendersi conto che certe volte ci sta addirittura una spinta di alcuni compagni maschi, no? A dire all'interno del proprio collettivo: ah, tu sei una donna, perché non fai la femminista? Noi saremmo più forti come collettivo se tu facessi la femminista. Ma in realtà quello che loro ti stanno, diciamo, proponendo, ti stanno spingendo a fare, è soltanto, come dire, un, cioè va bene nella misura in cui tu, non da femminista, poi non individui delle priorità che siano altre rispetto a quelle del percorso misto. Cioè va bene fino a quando sei non solo integrata, ma anche, diciamo, sempre comunque di retroguardia. Nel momento in cui invece questa battaglia, il tuo obiettivo, diventa l'obiettivo principale, tu poni un'urgenza che è da te sentita in quanto donna, che parte da una tua oppressione specifica e che quindi necessariamente coinvolge anche loro in quanto controparte, se non modificano il loro maschile, allora lì non va più bene. Cioè allora lì tu sei accusata di lavorare in sottrazione rispetto al movimento tutto, di separarti, sì, no? Allora, sempre così, sì, E questa cosa è una cosa proprio che è successa con alcune compagne più giovani. Ma nel senso che allora voi lo fate soprattutto per le altre donne presenti? Cioè, per me, cioè quelle occasioni io le vivo anche così, cioè per portare all'evidenza che effettivamente il rapporto dentro ai movimenti misti è complesso per questo, cioè che questa assunzione di responsabilità che ognuna fa quando comincia a intraprendere un discorso, una pratica femminista, è faticoso, nel senso che ti troverai sempre davanti a questa accusa, no? Davanti a questa rivendicazione, e quindi bisogna un po' strutturarsi per poter reggere e per rivendicare le proprie priorità. E quelle sono occasioni in cui diventa lampante che appunto il compagno maschio di turno prende e devia completamente il discorso. Ecco, ma allora che pratica politica comune avete? Cosa condividete con questi compagni? I percorsi che sono, diciamo, le lotte di classe che si provano a fare in ambiti, non so, sul lavoro, sulla sanità, sulle case, no? Cioè, e poi tra l'altro per me la condivisione, per esempio, abbiamo fatto, cioè noi facciamo le iniziative miste anche quando ci sono dei risultati che possono parlare al movimento tutto, per esempio anche nel tuo libro, però forse l'ho malinterpretato, cioè questo concetto un po' della femminilizzazione del lavoro, no? Cioè nel senso che comunque adesso il capitalismo e il neoliberismo... Beh, ma mica l'ho detto io, lo dicono tutti. No, però su questo termine c'è un po' di confusione, non so se ogni volta, per esempio, con Silvia Federici ho provato a portare questo argomento, ma lei non mi ha capito perché non utilizza questo linguaggio. Io intendo per femminilizzazione del lavoro questa pratica per cui questa fidelizzazione, questa aderenza emotiva, no, della donna e moglie, per esempio, nei confronti della famiglia, per cui una madre e moglie identifica il proprio destino con il destino della famiglia, il proprio benessere con il benessere della famiglia. E questo, no? È sempre successo. E questo è sempre successo. Adesso sui luoghi di lavoro si fa la stessa cosa, cioè quello che tu dicevi del manager, no? Che gestisce la proprietà come se fosse proprietario, anche se non lo è. Adesso il lavoratore lavora da dipendente per gli interessi dell'azienda, no? Cioè sono riusciti a, riescono sempre di più a farti aderire emotivamente, e tra l'altro poi ti caricano di lavoro, cioè le ristrutturazioni che stanno facendo adesso sono più che altro ristrutturazioni di tipo indiretto, cioè loro non è che ti tagliano direttamente il salario, ma ti organizzano il lavoro in maniera tale per cui tu fai il quadruplo del lavoro, quindi chiaramente vieni pagato di meno, però non incidono direttamente, capito, sul minimo sindacale, ma ti mettono a servizio, questo multitasking. No, ma il fatto è che secondo me anche nel vecchio capitalismo c'era la fabbrica come una famiglia, c'erano quelli che lavoravano nelle fabbriche, la mia fabbrica, cioè c'era un'immedesimazione che forse era più forte allora di adesso. No, adesso, adesso io penso che la femminilizzazione, almeno così come ne ho parlato nel libro, riguardi l'aleatorietà, la non retribuzione, i posti di lavoro. Cioè i poveri maschietti adesso vivono quello che hanno sempre vissuto le donne. I part-time, il nero, ecco. Io lo intendevo più in quei termini, perché rispetto invece all'affetto, alla propria ditta, adesso se poi li pagano meno di affetto, cioè sono appunto sindrome di Stoccolma, siccome però, ti licenzio, ma è la sindrome di Stoccolma, una femmina e aderisci, perché qua stanno a fare una volta riforme su riforme, va bene, allora accettato. No, nel senso che va bene anche quello che dici te, eppure per questi spunti uno dice, noi diciamo allora portiamo un po' di esperienza e di discorso femminista pure nell'ambiente misto, perché ci sono dei risultati che potrebbero essere utilizzati da tutte, da tutti e da tutte. Ma per esempio la femminilizzazione del lavoro è la mancanza di divisione tra tempo del lavoro e tempo del riposo, o il tempo del privato. Cioè nell'Ottocento, quando tutti erano una grande famiglia nella fabbrica, c'era comunque il tempo del lavoro e il tempo del riposo, mentre adesso si richiede al maschile, o comunque a tutti quelli che lavorano, quello che fa la donna, quello che fa il femminile, cioè che non ha mai tempo del riposo e non ha mai tempo del lavoro, è sempre il tempo del lavoro. O nel cercarlo, lavora per cercarlo. C'è la disponibilità, dice di te. Sì, se lì a parlare su WhatsApp per organizzare i turni, anche se domenica, non stacchi mai. Ma anche te lo porti a casa, cioè. Sì, ma c'erano state anche delle inizie. Comunque poi, non è un caso che lo si chiami femminilizzazione, no, giusto? Allora non l'hanno capita. Perché io parlo anche della decrescita, parlo anche del PIRL. Del PIRL. Cioè, e guarda, e lo sto facendo sugli organismi modificati, questa analisi qui, e sul TTIP, sai quel... Sì. E sto scrivendo delle cose. Con la mia solita chiave, io non l'ho trovato. Ma il TTIP... PTT si chiama così. No, troverà un acronimo giustamente per ogni T e ogni I. La P forse sarà pene, non so. Ecco. Sì, l'unica cosa ovviamente con la delocalizzazione. Parla più forte. Con la delocalizzazione continua che c'è delle aziende. Oddio, in realtà un po' se sti medesimazione dei lavoratori con l'azienda un po' se viene a mancare. Nel senso, io vengo da un paese piccolo eppure molto industrializzato, dove hanno sempre fatto quello che gli è parso la famiglia che era proprietaria delle aziende, perché a Fabriano c'erano i Merloni, ci sono i Merloni ancora per modo di dire. Ed era veramente un modo patriarcale di gestire la cittadina, nel senso che non c'erano, e questo è secondo me è proprio lampante, non c'erano fino a quando io ci ho avuto 18-19 anni, fino a quando noi facevamo il quinto, credo, non c'erano praticamente locali, pub, luoghi dove potersi andare a prendere una cosa dopo cena, che c'era proprio la cultura che l'operaio il giorno dopo si doveva alzare presto per andare a lavorare, quindi era dispersivo, diciamo, un'ottica hanno impedito la costruzione di strade perché non volevano che passassero in certi punti piuttosto che altri. Questo ad un certo punto è venuto a mancare, questa offerta di lavoro, perché parliamo di aziende molto grandi che hanno sfruttato una certa dinamica, diciamo così, di lavorativa che si era venuta a creare nella zona. Il metal mezzadro è stato inventato, si può dire, lì nella zona da dove vengo io. Quando è venuto a mancare questo con la delocalizzazione, questo un po' è venuto a mancare, ma c'era una sindrome di Stoccolma anche da parte dei lavoratori, cioè nel senso, è quello che succede anche all'Ilva quando si mettono i lavoratori nella condizione di scegliere tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro, che non ti dicono no, preferisco crepare, cioè una scelta assurda, però si trovano a farla, no, preferisco crepare perché se non crepo così crepo di fame, perché è l'unica alternativa che ho. Quindi sì, si crea un po' anche in quel caso una sindrome di Stoccolma. Poi sì, cioè nel senso io credo che certe dinamiche si reiterino sempre. Beh, per voi non parlare delle mafie più familistiche di così. Cioè c'è sempre di fondo, c'è sempre i padrini e dintorni. Sì, c'è sempre la stessa logica, che su questo tendo di più a abuso, mercificazione, uccisione. La mafia è un quintessenza. E quelle donne che fanno le vici sono quelle che sono cooptate dal patriarcato, così come quelle che entrano nelle istituzioni. Ma la mafia è il patriarcato nella sua sintesi più antica. Il clan è una struttura gerarchizzata. La struttura gerarchizzata. E chi è il gerarca? Beh, come nella società, però. No, beh, cioè, non ci trovo una grande differenza. No, io sto dicendo che è la stessa cosa. Cioè, non è che. È soltanto l'obiettivo diverso, viene messa al servizio di una accumulazione privata fuori dalle dinamiche istituzionali e contro le dinamiche istituzionali. Ecco, il meccanismo è lo stesso. Cosa dice? È più evidente. È più evidente nella mafia, nel senso che c'è proprio. No, nel senso che è, come dire, un esempio di quelli più vulgaris, nel senso che lo capisci subito di cosa si tratta. Sì, sì. Per il patriarcato ci devi fare le cose per riconoscerlo. Ecco. Ma basta guardare la mafia che sappiamo già tutto. Forse sei ancora meno libero di quello. E lo Stato è la mafia. Nella mafia. Non so, deve stare sotto il centro. C'è qualche anima buona che mi dà un bicchiere d'acqua? Se non è troppo complicato. Se non vorrei scavalcare, vabbè che potrei anche andare a fumare. Come tu sei al centro dell'attenzione, non puoi andare a fumare. Mi viene anche comodo perché muovermi mi è difesa. È il prezzo che si paga. Vabbè, per non parlare però del 30% dei salari in meno, le donne non, perché non, cioè se c'è qualcosa da chiedere dammi da me, le donne vengono pagate il 30% in meno, ciò non l'hanno mai detto, le donne non se ne sono accorte, e invece pensano ai poveri maschietti che non lavorano, che non hanno un lavoro, e loro invece lavorano, che poi diventano le concorrenti in qualche modo. Beh, perché il patriarcato adesso, diciamo, il neoliberismo adesso ha impostato due percorsi diversi, cioè da una parte ci sono le donne che vengono messe al lavoro, quindi ci sono quelle che possono produrre per qualità, per i talenti femminili, esatto. Vuol dire? Sì, ma senza arrivare al discorso di talenti, proprio quelle che servono nella traduzione. Quelle che non, e quelle vengono inglobate, e addirittura in una trasmissione tempo fa abbiamo parlato della Silicon Valley, in cui le aziende pagano il congelamento degli ovuli, perché così le donne lavorano fino a 40 anni, congelano gli ovuli, non faranno figli, quando hanno finito di essere utili all'azienda, si l'azienda li scongela gli ovuli, da adesso potete farlo. Questo è un percorso. L'altro è quello che, siccome la grande maggioranza delle donne invece non serve al lavoro, quello chiamiamolo salariato, produttivo, eccetera, eccetera, viene rigettata nel lavoro di cura. Quindi adesso ci sono questi due percorsi diversi, e infatti la dualizzazione che viene riproposta, per esempio, dai media è molto forte. Vengono riproposte le immagini delle mamme giovani, molto giovani, che allevano i figli, che ai tempi nostri. Per lasciare libero un posto di lavoro a un maschio. che non servono, non c'è tanta questa cosa. Beh, non servono, sono troppo giovani per non saperlo, se non hanno cominciato a lavorare. Che non servono. In termini quantitativi, in termini, cioè proprio sì, non mi serve quel tot dell'eccedenza della forza lavoro. E agli uomini in più niente. Ma anche gli uomini in più vanno per strada. E gli uomini in più che vanno per strada fanno quello che sta a casa, entra in crisi per il ruolo e ammazza la moglie perché il suo ruolo è venuto meno, perché il maschio è investito nel ruolo di riferimento in famiglia. È uno dei motivi, per esempio, per cui scatta la... entra in, non so, si suicida, finisce ammazza anche i bambini, nervoso, oppure ammazza anche i bambini, moglie, bambini, eccetera, eccetera, perché è lui che si considera riferimento. Però al di là di questo, ci sono questi due percorsi. Adesso il mio librerino ha impostato due percorsi diversi tra le donne che servono e le donne che non servono, per cui sembrerebbe una contraddizione. Dice, come la televisione dicono che le mamme sono giovani, devono fare i figli, i pannolini, la cucina pulita, sono sempre più giovani e addirittura fanno i programmi mamma 16 anni, mamma 14 anni, no? E allo stesso tempo però spingono per il mondo del lavoro, per la manager, che sono due percorsi, non è una contraddizione, sono due percorsi. Tanto è vero che ci stanno. Che serve, che la spinta è sempre a seconda di quello che gli serve. Non è che uno è cattivo, uno è buono, meno cattivo, più buono, uno è pazzo, si sveglia la mattina, vuole scrivere. No, a seconda di quello che gli serve in quel momento lì. Loro giocano su questa cosa e sono fortissimi perché siccome hanno l'egemonia culturale, fanno passare questi discorsi attraverso tutto e ti arrivano, volente o nolente, ti arrivano. Per cui tu ti ritrovi a parlare, come diceva Noemi, non so dove è andata, prima dell'utero in affitto, adesso magari c'è da 10 anni, ma gli serve adesso che tu ne parli, quindi te lo buttano su lì adesso. Oppure, non so, fra l'anno scorso è venuto dagli Stati Uniti le femministe casalinghe, le femministe hanno rinunciato al ruolo di là, sono tante le donne manager che vogliono tornare a casa, che non gliene servono più tante, quindi ti bombardano, poi il femminismo è il recupero dei valori materiali. Cioè, è una potenza. È quello che dobbiamo decidere noi che progetto fare. Esatto, questo è il fatto, perché se corriamo dietro a questo... Esatto, però anche il riconoscimento di questo è importante, perché dire che noi non corriamo dietro a queste non è mica facile, non è che una fa una petizione di principio e dice io non voglio correre dietro a queste. È difficile non correre dietro a questo. È difficile. No, perché è un dato di fatto. No, è che è molto difficile avere gli strumenti per capire. Incorporiamo pezzi che non sono nostri, però ci dobbiamo... È difficile. Quindi è una manipolazione talmente, secondo me. Sono bravi. Sì, sì, ma sempre di più per il livello anche tecnologico, mediatico che hanno raggiunto. Non so, mi sembra una cosa potentissima, insomma, quello per esempio, che va a finire anche alle scadenze, poi tu devi. Pure è sempre stato delle donne, però nel momento in cui alla Silicon Valley ti dicono tu fai la manager e io ti congelo gli ovuli e tu lavoro di cura, lavoro riproduttivo, ci pensi dopo i 40 anni, cioè ti hanno... Beh, se per quello adesso stanno anche costruendo questi ovuli dove fare nascere i bambini, no? Sì, e cioè per esempio... In Cina? Cos'è? No, hanno fatto un convegno a Boston... A parte che avevano iniziato prima a fare la clonazione delle cellule, sì, di un maschio per fargli fare il bambino, pensate al numero che non invidia c'aveva, perché neanche l'utero in affitto, voleva proprio la sua. Ma adesso lo vogliono. Ed è andata male, hanno fatto una piccola forse. Adesso è giunta notizia che non so se in Cina o da qualche parte, no, stanno creando un'incubatrice. in cui cominciare tutto il ciclo, insomma, metto lì l'ovulo e il semino e poi pensa lui. Allora a Boston sono ancora più avanti, hanno fatto un mese fa un convegno sulla creazione del genoma artificiale, cioè non l'incubatrice, da zero, cioè non mi serve neanche il semino e non mi serve l'ovulo. Creano, e neanche la cellula. Creano da un pezzo di pelle, di tessuto qualsiasi, l'essere umano del tutto artificiale. Allora, per esempio, questa cosa qui apre scenari da paura rispetto a che cosa? Rispetto alla creazione di nuovi schiavi. Perché qua ti fai l'esercito, ti fai i lavoratori, col cervello che decidi, che obbediscono, che non hanno grilli per la testa. Ma quali sono i robot? Cioè questi esseri umani creati così non hanno non lo sappiamo. Cioè ci stiamo avventurando nella fantascienza. L'intelligenza artificiale avrà delle emozioni, è una domanda che ci poniamo da 200 anni. Ma lei sta parlando di celli, cioè di materia vivente, vera, che produce anche il cervello. Beh, un mese fa si sono così, sì, però magari la di concreto non c'è. Non ha molta importanza di quello che quello che c'è in banca, noi non ne sappiamo nulla. Cioè, è il principio che comunque quando noi ci dobbiamo porre, il principio che noi creiamo la... Certo, diciamo che forse qui ci vuole. Devo passare. Sono tecnologie sulle nanotecnologie, cioè a noi. Che benefici porta la madre terra a noi? A noi non ce ne può fregare di meno di un sacco di cose. Ma dipende sempre da come è declinata poi l'utilizzo. No, dipende sempre, cioè il modo di declinare l'utilizzo di determinati, no, diciamo ecco, così, su questa cosa, su questo, scusami, su quella, sulla declinazione, certo, uso buono o non uso buono delle tecnologie. Io sono molto in riflessione. E secondo me è molto importante che ne riflettiamo insieme, perché percepisco intuitivamente che non esiste una tecnologia buona, cioè non c'è una tecnologia. La tecnologia, allora, vuol dire, il buono cos'è? Tutto ciò che è riciclabile. Siccome la nostra tecnologia oggi non ha quasi niente di riciclabile, mi pare, dai telefonini, non lo so, dove vogliamo andare a vedere? Cioè, come, quello lì è spezzata questa cosa, no? Questo è bellissimo. Ok, allora io devo partire da una parte, perché altrimenti sono gestibile. Cioè, mi gestiscono nell'immaginario, introietto pezzi che non sono i miei, seguo agende di lotta che magari non sono manco quelle che in questo momento invece necessitano per solidarietà internazionale, che ne so, voglio dire. Beh, però una buona notizia, c'è. Cioè, stiamo andando verso la distruzione. Cioè... No. Il fatto è che questo famoso patriarcato, economia, eccetera, detesta la materia, la natura, sì. E fa di tutto per sfruttarla, distruggerla e replicarla, eliminando l'umano, cioè la materia umana. E questo, ragazzi. E quindi la mia tesi, la materia, no, è sempre l'equivoco tra la scienza pura e non esiste la scienza pura. Vero quando viene utilizzato, però anche quando abbiamo scoperto il fuoco, cioè nel senso anche il fuoco a suo modo viene utilizzato, poi dipende da come viene utilizzato, perché lo posso utilizzare per scaldarmi o per dare fuoco a una foresta. Cioè io in quel senso faccio quel tipo di discorso. Poi ovviamente se c'è una deriva da. C'è stata una deriva che è evidente sotto gli occhi di tutti e c'è un utilizzo malsano e che ha condizionato anche lo studio stesso. Cioè, chiaramente, perché viviamo, cioè nel senso il percorso per ottenere determinate conoscenze è segnato dentro determinati sistemi universitari che sono costruiti in un certo modo e quello è ok, però la distinzione che facevo io era molto più ingenua e basica in realtà. Però questa è la differenza proprio tecnica e tecnologia. Cioè la tecnica sono strumenti, eccetera, la tecnologia, cioè si fa l'orso questa tecnica e supera. Allora forse la domanda è: questa tecnologia sta superando tutto, nel senso che si fa fine a se stessa e fine a se stessa, e quindi l'unico fine è riprodurre la tecnologia, oppure è ancora al servizio di un'altra volontà di potenza, potremmo dire il profitto del capitale? Per me è ancora questa seconda la opzione, sì, cioè per me ancora la tecnologia non è scopo a se stessa, ma è strumento del capitale. C'è chi dice nel nichilismo di questi tempi più assoluti che invece non è vero, che il capitalismo pure è stato superato dall'epoca tecnologica. Però superato tutto e non abbiamo mettici più. Mettici anche la finanza. Perché il denaro, poi sul denaro ci sarebbero dispute. E poi la finanza risponde sempre a questo scollamento dalla realtà materiale, perché si parla di il primo scollamento. Speculano su delle cose che non vedono nemmeno, come i pacchetti obbligazionari. Il denaro è sostituisce, si separa dal naturale, dà il valore a ciò che è la materia naturale, e non è un caso che le donne, rappresentando per gli uomini la materia perché la produce, risulta poco apprezzabile. Insomma. In più ci mettiamo anche dentro questo concetto della natura cattiva, la maternità dà la vita per cui dà anche la morte, cioè ci sono tutti dei concetti filosofici espressi dagli uomini più che altro, che abbinano molto la donna alla distruzione, insomma. Cioè non è un caso, insomma, il sessismo è più forte di razzismo, è il più diffuso sentimento dell'umana patriarcal economia. E dico per sessismo ciò che hanno deciso che le donne rappresentano, perché poi è una balla che sia proprio così, no? E della propria di materia non parlano, perché si deresponsabilizzano della propria materia e ne vogliono fare una in contraddizione, tipo finta. E agiscono, secondo me, come dico anche nel libro, una natura oscura, non sanno quello che fanno, basta che gli tiri, scusate, sempre in tono libresco. Per cui è una cosa, ecco, per me è il trogloditismo al massimo sistema. E si mette poi tutti i pennacchi dei grandi pensieri. Due dimensioni, no? Non lo so, sto facendo un ragionamento adesso così alta voce, non è che è una conclusione. Se da una parte la fase di avanzamento del capitale attuale va a pari passo con un retrocedere delle lotte femministe, perché è tutt'uno, e dall'altro lato secondo me ci stanno dei piccoli passi in avanti generazionali che riguardano il rapporto donna-uomo anche all'interno della casa, ad esempio, no? Parlavamo l'altro giorno con Margherita. Rispetto alla generazione più grande di noi, magari 30-40 anni fa, a casa i ruoli di pulizia, secondo me anche più spontaneamente, non per forza dentro un contesto di compagni, di lotta, si stanno iniziando un pochino più a condividere la legata anche a una maggior consapevolezza delle donne. Certo, sì, sì, sì. Certo. Movimento perché gliela, sì, perché un po' gliela, sì, sì. Ed è per quello che bisogna continuare a puntare su. Esatto, sì, sì, sì, però appunto, se partendo da questo punto, comunque rendersi consapevole del fatto che comunque quello va accompagnato da un retrocesso nelle lotte femministe, perché il capitalismo avanza in modi anche spietati, anche se ci sempre di più dei fattori esterni, nel senso che adesso se poi vado a un affitto in due, devi lavorare tutti e due, cioè tutti e due devono lavorare, quindi c'è l'altro giorno, penso, non la cosa era, tu dicevi due livelli. Sì. Cioè, sì. C'è un livello del fatto che sì, dentro casa i ruoli sono un po' più liberi, pure il maschio lava il cesso, e questa è una conquista sicuramente di allora, dalla batosta che hanno preso anche negli anni 60 e 70. Eh sì, brava, esatto. Poi gli dici, guarda che non è un lago questo, riesci a farla tutta dentro? Guarda. Però dall'altra parte invece c'è un paternalismo enorme. Cioè, non è stato un paternalismo gigante, questa è la retrocessione. Cioè, secondo me, parlando con le compagne che hanno fatto, insomma, che hanno partecipato, no, ai movimenti rivoluzionari degli anni 60 e 70, là c'era sempre, cioè, è come se fosse invertito. Oggi io trovo il compagno più paternalista di quello di 40 anni fa. Ok? Sì. Però più collaborativo da un punto di vista di diciamo lavoro pratico, capito? Però in realtà una riassunzione del suo ruolo di maschio, di protezione, capito? Io la sento. Sai perché? Perché è riformista la risposta. La risposta è riformista. Cioè la risposta è riformista nel senso che lui ti concede di aiutarti a casa, perché i rapporti di forza si sono leggermente spostati, e lui però ti concede questo, però per il resto non ha retrocesso. È un'impostazione riformista. Si paga la donna di servizio, così tu non ti pieghi, si piega un'altra donna al posto tuo, o uno che viene a spiegare le camicie. Ho scritto anche delle badanze. Però ti tratto una merda uguale. Perché è riformista? La violenza esiste ancora. Perché è riformista? È quello che fanno i riformisti con le lotte, cioè ti danno l'aumento su di 50 euro, ma la struttura rapporto capitale-lavoro non cambia. Ed è collegato sempre comunque a logiche di sfruttamento del lavoro, perché spesso questo, non parlo della collaborazione, cioè del fatto che uno non sia più collaborativo dentro casa, ma del caso in cui, qualora uno se lo potesse permettere economicamente, pagare personale, diciamo così, dentro casa, che ce ne sono, anche se sono una minoranza, ce ne sono, prendi per lo più in vitto alloggio filippini, bengalesi, gente cingalesi, pagandoli merda, perché per quello che fanno, a proposito del lavoro materiale, se spaccano la schiena 40 ore a settimana, io non vedo perché mi pagare 5,69 euro lordi orari. Però meno male, perché gli dai lavoro. Ma lì c'è un ricatto, lì c'è un ricatto, perché loro, dicevamo prima, non possono votare, che comunque non ti dà garanzie, ma vali meno del meno del meno del meno, e in più ti devi accontentare, perché altrimenti c'è il permesso di soggiorno legato al contratto lavorativo, dunque ti devi veramente accontentare di tutto quello che ti danno, anche se sai benissimo che che è ingiusto. E lì reitera dei rapporti di classe, dei rapporti di forza, che sono quelli tipici dello sfruttamento padrone servo, che fondamentalmente fanno i servi. Però servi, io ho visto donne incinta di 8 mesi, donne delle pulizie, che pulivano i tappeti per 7 euro l'ora, a nero magari, rumene. Vabbè, ma scusate, perché non è per dire che se fanno noi si rifiuta di fare i servizi in casa e non paga nessuno, lo lasciamo a pagare la mamma. E gli devi denaro, però. Io ti voglio provare, però non ci vuole. È una mamma, voglio dire, cominciamo a partire da noi, no? Sì, sì, tu ci provi, però quando il tuo livello di tolleranza rispetto alla sporcizia è questo, e il suo è questo, capito? Cambia casa, sì, sì, no, però per dire è duro, perché se io sono, infatti volevo tappare, è meglio che vada in un'altra casa, e allora almeno pulisco per me. Ma quante donne ci stanno che accettano il compito, bisogna arrivare ad avere, perché Poretto lavora di più, grazie alla perché tutte queste qui che hanno una grazie. Io, da quel poco che sento, le famiglie vanno avanti sempre uguali. C'è stato un confronto in uno degli ultimi di due che sono arrivate allo stremo, che vogliono e dicono perché hanno fatto il gruppo. Questo è. Che hanno raccontato dei loro rapporti con i mari. tempi. A un certo punto una dice, ma scusate, avete lo stesso marito? Si chiama Giuseppe tutte e due. Cioè, sembrava una copia. E una si è stupita. Dicevano le stesse, identico. Poi una ha deciso ed è partita, è andata via un mese. E io sono adesso in ansia perché voglio sapere come finisce, perché è tornata e dovrebbe aver preso una decisione di separarsi. Però appunto in queste, come dire, scambi di, non vedi, io non vedo tutte queste diversità di aiuto, eccetera. Però magari mi sbaglio, forse sono più giovani. Sì, forse quelle che sono state a contatto con le femministe. E grazie a Marco ricordo a Elisabetta. Vero Elisabetta? Che cosa? Hai istruito bene i tuoi bambini? Ci ho provato, nel senso che no, finché sono stati a casa funzionava sì, diciamo che ognuno aveva un compito, tipo non so, uno doveva lavare i vetri, l'altro doveva lavare il bagno, eccetera. Nella settimana lo poteva fare quando voleva, però nessun altro lo doveva fare, nel senso che se i vetri erano sporchi era lui che era responsabile di questa cosa. E funzionava abbastanza, anche con Silvio. In presenza, dopo poco. Beh, no, dopo diciamo quando sono andati via, perché adesso non stanno più a casa, è chiaro che... Però da questo punto di vista sono autonomi, nel senso che hanno fatto un percorso di autoformazione, per cui sono autonomi. Questo però non basta, è una cosa che tutto sommato, tutti i livelli possibili. Ma è la società che li forma, non sono io. Sì. Io ci posso provare, posso fare questo tipo di cose. Per esempio lo sciopero della televisione, piuttosto che non comprare i prodotti che usano, io dico tutto lì, invece di. Cioè rispetto al sessismo. Io ti raccontavo di questo muro delle bambole che hanno fatto contro il femminicidio. L'invito era, l'istituzione perché la provincia di Milano, portate su questo muro tutte le vostre bambole e le appendete lì. E contro il femminicidio. E non hai idea, e l'hanno rilanciato quest'anno. Non hai idea cos'è successo con le bambole. Le hanno squaltate. Prese di mira con le orecchie. Cioè di tutto, cioè femminicidi sulle bambole. E questi? Ma perché l'ho detto? Eravamo, non so non più dove eravamo partite. Sì, in effetti no. Ripetevo lo sciopero della televisione. Ah sì, dicevo appunto che quella lì che pulisce Cenerentola. E che alla fine si veste da sera e tutte le storie hanno un lieto fine. Non si compra più quel prodotto lì se proprio bisogna comprarlo. Però... cioè fare una specie di sciopero anche immaginario di rappresentazione. E se tutte le donne fossero finalmente d'accordo avremmo già fatto qualcosa, avremmo già fatto. Solo che mettersi d'accordo è una fatica. Sì, perché mi devo mettere d'accordo con la Santa Che, cioè. No, tutte le donne, appunto, apriamo questa parentesi. Ma vuol dire che la Santa Che magari arriva ultima e la lascia. No, no, no, no, no. Per me sono tante altre. Ce ne sono tante altre. Ma la devi passare perché arriva. Perché devo parlare sempre della Santa Che? È un esempio. Me ne foto. È un esempio. Sì, ma no, preferisco lei. No, no, no. Però non si può, no, perché non puoi dire me ne foto. Sta dall'altra parte, che è un giudizio politico, perché a me io posso anche foto. Dall'altra parte ce n'è tanti. Tutte quelle che stanno dall'altra parte, cioè che fanno delle scelte. Dall'altra parte sono gli uomini, per cui se ci sono gli uomini è no, dall'altra parte c'è chi ha il dominio in mano di questa organizzazione sociale, che è biologicamente sia uomo che donna. Che è biologico in questo momento. Biologicamente. Cioè che il sistema di potere adesso ha inglobato le donne. le donne sono parte delle donne, che quelle che si sono prestate sono al servizio, allora, di questo, quelle stanno dall'altra parte. Non dobbiamo far sì che saranno le donne, non ci facciamo più inglobare, chiaro? Ma non puoi più parlare di donne, devi dire che le donne sono... No, perché le donne adesso sono attraversate dalla classe, per cui le donne... No, io non parlo a tutte le donne. Se non vogliono, parliamo di femministe. Parliamo di femministe, parliamo di... Non lo so, però sicuramente bisogna tracciare una discriminante. Ma quella si traccia da sola, non è vero, non è così chiara, manco per idea. Tracciare una discriminante politica chiara è importante, perché è importante anche nei confronti della controparte. Sì, però la discriminante la puoi far apparire nel momento in cui tu fai una pratica che si mostra. Che esiste, non è vero. Se no la discriminazione la fai da chi va nella merda e chi non fa niente. Non so come dire. Sì e no, perché loro magari, sono... No, perché loro però sono molto bravi. Se non ti metti di buzzo l'uomo a costruire una tua di pratica, una tua di strategia e un tuo progetto, te la piglierai sempre con la Santa Cheche, che è l'ultima. Ma... che mi interessa. No, io con il progetto, qualsiasi sia, comincia dal dirsi le cose come stanno. Quindi dirsi le cose come stanno è la premessa di qualsiasi progetto. Quindi dirsi le cose significa che in questo momento c'è una discriminante forte tra le donne che stanno dalla parte del potere e le donne che non ci stanno. Per cui io dichiaro, prima di qualsiasi tipo di progetto, che le donne che stanno dalla parte del potere sono mie nemiche. Punto. Questo è di una chiarezza. Sono gli uomini. No, sono mie nemiche, perché non sono... Non capisco, sono qualcosa di più. Tu crei un progetto contro delle altre donne. No, sembra come dire, una delega all'assunzione di responsabilità di fare un proprio percorso, però purtroppo c'è necessità di fare questo. Perché ci stanno un sacco di percorsi in giro per l'Italia in cui compagne che sono compagne, cioè che stanno fuori dalle istituzioni, che hanno una serie di paletti eccetera, poi invece fanno le campagne di difesa di vari diritti eccetera, con l'UDI, con tutte quelle associazioni, capito, che hanno frenato. Noi non le accogliamo. Negli anni 70 venivano in processione tutte le donne che facevano i gruppi delle donne, di tutti i gruppetti, cosa operaia, di quei gruppi extraparlamentari di un tempo, venivano a fare la processione in via Cherubini, dove, a Milano, dove c'era l'incontro delle singole, dei gruppi, del femminismo di allora, e noi gli dicevamo fuori di qui. Però poi abbiamo tenuto dentro qui le socialdemocratiche che ci hanno dato la fregatura mentre quelle appartenevano a un altro. E noi dobbiamo prendercela sempre con le donne. No, dobbiamo dire, fare chiarezza, perché nel momento in cui tu posi avanti, faccio un esempio di lotta che non è lotta delle donne, ma facciamo lotta di liberazione generale da questo mondo che è gestito da un sistema di potere. Se io non faccio chiarezza tra chi sta da una parte e dall'altra della barricata, io non comincio, cioè se io non faccio chiarezza in questo momento sulla sinistra istituzionale, che invece è destra moderna, io non vado da nessuna parte. E questo vale anche per le donne. Secondo me. Perché devi concentrare? Non c'hai bisogno, devi creare un movimento delle donne, punto, che non è un partito. Non è quel che è un movimento delle donne che fanno i cavoli loro, pensano ai cavoli loro e mettono in atto delle strategie che risolvano per loro, ma quelle che ci stanno, perché come faccio io a costruire qualcosa con qualcuno, come faccio a costruire un percorso insieme a delle donne che magari si riconoscono come discorso emancipatorio quello di lavorare e di accettare quindi una logica di sfruttamento del lavoro, che è quella. E allora se voglio coinvolgere altre donne, allora appunto ci deve essere un discrimine, per cui io non... Vedete, dal mio punto di vista, o vengono lì quelle che vogliono fare autocoscienza, oppure andate, non ci... Ma se viene una poliziotta che vuol fare autocoscienza, tu che cosa le dici? Se fa l'autocoscienza davvero... Invece no, per me la poliziotta è dall'altra parte. Smetterà, diciamocela per magari sono più inclusiva di io, tendo più alla sta cose. Dall'altra parte però perché... esatto, anzi io diffiderei molto che cosa viene a fare lì, cioè non credo. Beh, era lei che voleva no, scusami, è da meno sì, no, nel senso che comunque io di un poliziotto ad esempio un poliziotto io diffido radicalmente, cioè proprio non ho niente a che vedere con un poliziotto. Perché questo viene fuori anche per esempio nell'autodifesa. Nell'autodifesa, se tu fai un percorso di autodifesa femminista, questo percorso di autodifesa è aperto a tutte o aperto soltanto a chi sta da una parte? Se nel percorso di autodifesa che in cui ci sto io viene una poliziotta, io non la voglio. Punto. Non sta dalla parte mia, è una nemica, non è una l'accezione biologica di donna non mi riguarda. Anche perché no, volevo fare, cioè io non so, magari voi vi conoscete tutte, no? Io non mi avete. Cioè io sono venuta perché mi interessava il concetto della fascinazione che abbiamo noi donne verso l'uomo. Quindi secondo me questa è una cosa molto importante perché o se veramente si può fare una lotta, o sei femminista e lesbica, e allora lì a quel punto si può fare una vera e propria lotta, ma altrimenti dobbiamo fare i conti col fatto che noi ci innamoriamo, col fatto che noi siamo affascinate comunque, del fatto che comunque poi alla fine cadiamo sempre in qualche modo in una trappola. Lo dice una persona che non ha nessun problema, io ho un marito che è molto più avanti, cioè purtroppo questa è una realtà, cioè una realtà alla quale io effettivamente ogni volta dico porca miseria, no? Certo, quando stavo con un fidanzato che non faceva niente, io siccome facevo meno di lui alla fine ha cominciato a bestemmiare e a pulire, cioè, però questo è stato sempre un mio modo di fare perché sono un artista e quindi ho sempre pensato di fare le cose, cioè non mi sono mai vista nel ruolo di moglie, nel ruolo di madre. È successo, però è successo, veramente è successo. Però in ogni caso anch'io, cioè malgrado che sono in grado di fare delle scelte, cioè sono in grado nel senso che ho vissuto anche esperienze tali che mi hanno portato a fare delle scelte, perché comunque per avere la consapevolezza di quello che noi valiamo, di quello che noi lottiamo e di quello che effettivamente ci fanno nel mondo, bisogna scontrarci con la realtà, ma con una realtà che profondamente ti ferisce, perché soltanto quando sei profondamente ferita, allora a quel punto tu capisci che cos'è il patriarcato, perché non lo riconosci, e per riconoscerlo veramente lo devi sentire dentro come un coltello, cioè non è una cosa che si insegna, cioè si deve vivere. Cioè questo io, allora in questo senso io penso che qualsiasi lotta delle donne parte proprio da questa coscienza dei nostri limiti come donne, e nei nostri limiti ci siamo tutte, ci siamo veramente tutte nella nostra differenza, cioè nel senso che per esempio avevo un'amica marocchina, no? Che lei mi diceva quando son venuta qua io non è che mi ponevo il problema perché avevo, cioè lì avevo soltanto una realtà, quindi non mi ponevo, poi sono venuta qui e ho scoperto che invece ci sono altre realtà, no? E io lì concludevo effettivamente uno scritto che dicevo, perché in effetti noi donne siamo uguali nella differenza, gli uomini sono soltanto differenti, questa netta divisione, cioè trovare dei punti d'accordo che in realtà ci possono unire, secondo me è importante. È importante perché altrimenti c'è chi di noi ha il coraggio per esempio di lottare per qualche cosa di veramente suo e di andare, cioè quante volte ci sbattono la porta in faccia e poi retrocediamo e invece poi riandiamo, chi è che di noi veramente ha il coraggio di dire vaffanculo di fronte a qualcuno che ti chiude la porta, cioè l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto? Chi l'ha fatto? Che cosa è successo? Il tuo assassino ha le chiavi di casa. Cioè nel senso che secondo me tutta questa perché tutta questa cosa, per esempio, cioè io questa cosa che mi interessa è il concetto di quello che effettivamente siamo in profondità, cioè nel senso le parole vanno bene, però dobbiamo fare i conti, dobbiamo guardarci allo specchio, perché non è possibile. cioè non è possibile che in realtà contiamo tanto poco, siamo nati insieme agli uomini, no? Cioè ce l'hanno, non è, dice ci hanno dato il voto 70 anni fa, ma noi contiamo veramente poco, ma contiamo veramente poco nel mondo, dovunque andiamo contiamo poco, eppure ci sono donne che io ho conosciuto che sono meravigliose, donne africane che hanno figli, sono ministri e si occupano delle altre donne, fanno delle cose importanti. Cioè io con le donne, per esempio, oggi è la prima volta che vengo, ho fatto un'altra cosa femminista 20 anni fa e me ne sono andata via perché mi sono sentita proprio fuori luogo, no? Magari forse adesso questo era solo, volevo soltanto capire, cioè io, effettivamente se c'è veramente la possibilità, no, la possibilità di un rifugio, cioè di sapere che ci sono delle donne delle donne che ti capiscono, che delle donne che ti comprendono, cioè io questo non lo so, cioè ci comprendiamo noi, cioè siamo capaci di accogliere qualsiasi donna che ha un problema, che vuole, oppure stiamo lì col... E invece se ci innamoriamo, no? Quanto diventiamo... Succubi. Ma anche se non siamo succubi, perché comunque, però quanto diventiamo disponibili, capito? Fino a che punto la disponibilità, cioè, arriva? Cioè, e quanta disponibilità diamo effettivamente a una donna che è differente da noi? Cioè, ecco, questo io, era solo questo che... Ma tu sei arrivata un po' tardi. Sono andata tardi perché mi sono persa. No, poi ho pure parcheggiato qua. E poi mi sono ripersa. E poi quando ho domandato a un gruppo di donne se conoscevano il nido di vespe, mi hanno detto, dico no, perché so che sta al centro. Ah, perché l'hanno messo pure qua. Ho detto, mamma mia, c'è proprio... Cioè, nido di vespe, perché c'è via De Quintilia, ah, perché l'hanno messo pure qua, cioè del tipo una cosa tipo così, ho detto vabbè, fammi andare. No, te lo chiedevo perché prima avete parlato di questo un po', appunto, della fascinazione maschile, io è una delle cose di cui è, perché in effetti ci chiamiamo, no? Cioè è legata a questa, l'alterità con la A maiuscola, no? Cioè il tuo, quello che viene passato per il tuo doppio, l'altra metà della mela, il sogno d'amore, ma questo ce l'hanno inculcato da sempre, no? E comunque la fascinazione è anche per chi ha potere, chi ha soldi. Sì, come no, ma come no, questo viene... Però appunto questa è la condizione in cui ti hanno allevato e hai vissuto, tutte le donne più o meno. Sì, però questa qua è una cosa che noi abbiamo da... Allora, lo stare tra donne dovrebbe valorizzare un'alterità diversa dall'uomo. Ma secondo me lo stare tra donne dovrebbe essere creare un rifugio, cioè no, trovare, ecco, un punto rifugio di contatto. No, rifugio nel senso un posto dove effettivamente l'accoglienza, cioè un posto dove si può parlare, dove si può... Sì, di ascolto sicuramente, perché serve a tutti ascoltare le altre. Però l'accoglienza è già più gli incontri superartisti possono avere questa valenza, no? L'autocoscienza di incontri superartisti, quella che chiedi tu. Sì, perché secondo me è importante, adesso io non lo so, perché io non è che, cioè io praticamente ho avuto la mia esperienza a livello, cioè io non è che ho fatto mai lotta politica, io sono semplicemente una che... Come mai sei venuta? Eh? Come mai? Da dove hai saputo di venire qua? No, sentivo Radio Onda Rossa. Dall'intervista. Dall'intervista ho sentito Radio Onda Rossa. E poi, vabbè, io sono venuta per tanti motivi, insomma. Peccato che sia arrivata tardi. Perché sì, perché ne abbiamo dette di ogni. Sono 2 ore e mezza. Sì, e io proprio mi sono... No, nel senso che ci dispiace che... Perché ne abbiamo parlato tantissimo, ahimè. Ci trovi anche stanche. Ci trovi anche stanche. Comunque abbiamo registrato tutto. Ah, ecco, puoi sentire la registrazione. Perfetto. Uè, me la mandi anche a me, vero? Certo, abbiamo registrato tutto. Infatti me l'ho portata la telecamera. Addirittura? Sì, perché io vado sempre in giro con la telecamera. Cioè, la prendo perché sono abituata, capito? Riprendo sempre. E tu la usi come il tuo... Sì, io lo uso. Ah, perché abbiamo visto anche un video di tre ragazze di un gruppo di autocoscienza che hanno intervistato alcune di questi gruppi, questo gruppo di autocoscienza che ho a Milano. Ah. Allora magari potrebbe farne uno. se ci dici quando la prossima volta facciamo sì. Allora, scusate un attimo perché altrimenti ci perdiamo assolutamente, siamo stanche. No, io ho interrotto semplicemente perché poi no, no, ma eravamo stanche, era finita. Io direi... A me no, non lo so. Possiamo ringraziare Daniela e chiudere la... Ecco, finiamo qua, dai.